24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Io vi chiedo di fare poche ferie. Ah, molto l'entusiasmo. No. Ora capisco di non essere stato particolarmente incisivo fino ad ora, ma che il primo semestre è venerdì. Arrivi sulle ferie. È quel venerdì per quel che mi riguarda. Quel venerdì, quell'ultimo venerdì di sveglia alle 5. Tutti al mare. Questo è Carmelo Lauricella, sta disgraziato. A mostrare le ghiatte ghiare. Dai, poi dopo ci scrivono quelli che dicono io in ferie non ci vado, io ci devo andare tra un po'. A parte che, allora, svegliamo l'arcano. Io alle 9 domani, sabato, sarò qui per Platone, la caverna dell'informazione, con Leonardo Manera, il nostro nuovo programma. Quindi non è che vado proprio in vacanza, diciamo, 24 mattino finirà oggi. Sei contento, Vincino? Non ti chiameremo per un po' di tempo, alle 6:30, non ti romperemo più le balle. E poi a settembre-ottobre partiamo alle 10:15, m'hanno detto. sì, alle 12:20. Noi come lo riformiamo questo Parlamento qua? E il Parlamento chiude. Come diceva Vincio, o si chiude, questa riforma è meglio chiuderla. Meglio chiuderla. Alle 6:30 non so che ci sarà da lunedì, non lo so, ci sarà qualche altra replica. Replica. Sarà chiuso per ferie. E basta. E chi mi chiamerà? Non lo so, se vuoi ti chiamo, mi metto la sveglia e ti chiamo. Ritorno con Radio Radicale. No! Ma sei un traditore, sei un volta gabbana. Ho capito, ma c'è un altro programma, ci sarà un altro programma, ma su, dai. Noi vediamo. Se no, assolutamente. C'è Radio Radicale. Va bene. Allora, intanto saluto subito Giorgio De Luca, anche lui oggi all'ultimo minuto. Saluto anche Carmelo Lauricella in regia. Gli manca un mese. Ti manca un mese per le vacanze. Mamma mia, devi schiattare proprio. Andiamo, apri il Parlamento allora per l'ultimo giorno. Per l'ultimo giorno estivo. Il caffè volentieri. Tanto ormai le riforme sono tutte fatte, tutto votato. Mamma mia, sta succede un casino, come direbbe qualcuno. Carlo Rienzi, buongiorno, presidente del Codacons. Buongiorno. Vincino lo conosce? Certo, sì. Li conoscete? Abbiamo già fatto un parlamento insieme. Vi siete già conosciuti qua. Fantastico. Oggi, tra l'altro, ho visto una cosa del Codacons, tra poco ne parleremo. Ma siete voi quelli del fumo, del risarcimento? No, quello di Milano non è una nostra causa, no? No, non è la causa, però ho letto che uno degli avvocati che lo difende è del Codacons di Pavia, no? Ah sì, questo è probabile. Ah, è probabile, cioè, sarà un avvocato che lavora anche per voi. Vabbè, comunque, tra poco ne parleremo, ma prima, la marcia sul Colle, ma l'avete vista la marcia sul Colle? Oh, che è successo? Succede che i tempi sono stretti e quindi Renzi ha detto, il governo ha detto, basta, si può discutere finché si vuole, ma l'8 agosto è il termine massimo, l'8 agosto con tecniche parlamentari che non sono proprio la tagliola, ma sono il contingentamento dei tempi, eccetera, si deve votare, Vincino. Puoi andare in vacanza dopo l'8 agosto tranquillo, sereno anche tu. Ma dico, scusami, 9.000 emendamenti dei quali la maggior parte 8.000, era sostituire Camera dei Deputati con Duma dei Deputati. Cioè, come dire? Ma come Duma dei Deputati? Sì, così. C'era un emendamento così. Emendamento Minzolini, gli emendamenti Minzolini che sono quelli tra i più raffinati. No? Così, sì. Camera dei Deputati con Duma dei Deputati. Ora, ma si può? Cioè, io non lo so. Vabbè, ma per farne 8.000 ci vuole un po' di fantasia. Dopo un po', sai, a me la cosa che mi fa specie è che l'ostruzionismo lo fanno i partiti, sì, ma i singoli in dissenso non è che fanno centinaia di emendamenti così, l'ostruzionismo di per sé. Cioè, io pensavo che Minzolini facesse 3 emendamenti per migliorare in maniera positiva, data la sua scienza, nel punto esatto, e invece si è messo pure lui a fare. Diceva, ah, ma sai, i radicali, questa è scienza che è radicale. Sì, ho capito. Sembrava vagamente ironico il tuo sottolineare la scienza di Minzolini. Sembrava vagamente. No, assolutamente no. Ma guarda, per sicuro, io Minzolini era uno dei, quando lavorava alla stampa, sì, forse perché era la stampa, era uno dei retroscenisti più seri. No? E l'ha inventato lui il retroscenismo. Tirava il motorino, ci ha raccontato il patto della crostata, ci ha raccontato il cappello, cioè proprio sapeva tutto, faceva tutto lui. Ha inventato il retroscenismo, poi, l'ho inventato lui. In politica è un disastro. È un disastro, ecco, Minzolini è un disastro. Sentite però Renzi che dice ad Alan Friedman in un'intervista alla 7, Alan Friedman, quello del Gattopardo, sentite Renzi. Ora che siamo alla fine però, non si pensi che ci sia una dittatura della minoranza. Perché io sono contro la dittatura della maggioranza, ma a maggior ragione siamo contro la dittatura della minoranza. C'è in Italia un gruppo di persone che dice no sempre, e noi senza urlare diciamo sì. Oh, molto semplice, netto, Carlo Renzi? Quelli dicono no e noi diciamo sì. Ma io penso che sia un gioco normale del Parlamento questo, cioè io non mi scandalizzo dell'ostruzionismo di Renzi che va avanti, però secondo me la cosa logica sarebbe stata andare alle elezioni e, se lui ha questo consenso, formare un Parlamento con un forte consenso. Adesso così invece si dovrà andare pure al referendum, perché non ci sono, sì, le maggioranze, e con questo grosso consenso, non con dittatura ma con calma, fare la riforma nei tempi giusti, e nessuno avrebbe presentato 10.000 emendamenti. Ho capito, così. Renzi, ma sono 30 anni che andiamo con calma, cioè forse lui ha detto mo basta. Ho capito, ma lo fa con un Parlamento che è ancora zoppicante, sì, quindi che pretende? Cioè, voglio dire, no, certo, uno... infatti molti dicono se lui pare che abbia agitato anche questo spettro delle elezioni, come dire, almeno avrà un Parlamento, se si conferma il 40% avrà un Parlamento amico, perché mo se li sceglie lui, no? Parlamentare. È chiaro. Ho capito, però ci voleva votare tra 6 mesi, poi eleggere il Parlamento, poi incardinare la riforma. Allora faccio quella ghigliottina, si becchi le critiche di dittatura, perché è così, cioè ogni cosa ha deve avere la sua definizione, cioè non è che uno può far finta che non sia dittatura fare la ghigliottina, come può far finta che sia sbagliato fare gli emendamenti, cioè sono le regole attuali. Se tu hai la possibilità di fare le cose correttamente avendo una forte maggioranza, fallo, secondo me. Voglio dire, siamo stati quanti anni con lo stesso Senato, non è che è fuori per mondo. No, ma infatti che sia una logica parlamentare, Vincino, questa è. Quelli vogliono farlo, quegli altri vogliono opporsi. Ma come una logica parlamentare mettere il contingentamento dei tempi? Appunto, no, ma infatti non è che uno è dittatore e l'altro invece, cioè uno cerca di opporsi e quell'altro trova i mezzi per approvare. Assolutamente, quella sguaiata corsa al Quirinale insieme. Chi la sguaiata corsa? Sì, quella di ieri sera, dai, insieme, pensi si scannavano alla Camera, si scannavano sul rimborso a quei poveretti detenuti, sì, massacrati. Sì. Insieme salivano Borghezio, quella di Selle, sì, e quell'altro dei 5 Stelle. C'era anche Paola Taverna del 5 Stelle. Pare che Repubblica dice che un carabiniere le abbia detto: signora, non si può passare di qui. E lei: non sono una signora, sono una senatrice. Capito? Sono una signora, pure lei di Enza Casta, stupendo. Capito? Paola Taverna, sentila qua. Non c'ero, vedi, sono a Mondello e mi perdo le cose migliori. No, a Mondello, hai capito? Sì, sì. Hai capito? Dopo ci racconti un po' che mangi a Mondello a colazione. Sentite Paola Taverna. Chiedevamo di spiegare il perché dei nostri emendamenti, che sono solamente 200. 6.000 li ha presentati Sel. Quindi Zanda, quando fa i proclami che lui non vuole tagliare, andasse a parlare con chi l'ha portato ad essere la maggioranza alla Camera dei Deputati, con la legge che ha permesso le coalizioni. Allora, questa è la taverna. Sentite invece Petrocelli, sempre nel Movimento 5 Stelle, credo che sia il capogruppo. Diremo quello che abbiamo detto in questi giorni nell'Aula del Senato, che questa non è una riforma della Costituzione ma una controriforma della Costituzione, e non vorremmo che i cittadini italiani si svegliassero tra un mese in un paese bloccato da un sistema autoritario. Allora dice diremo, perché di lì a poco i capigruppo, cioè lui, quella di Sel, quella della Lega, quello della Lega, sono entrati per ricevere per essere ricevuti da Napolitano. Ma Vincino, ma c'aveva il mal di denti, questo ha detto il segretario, il mal di denti Napolitano, non ha potuto, dai, il mal di denti, e dai, su, Carlo Rienzi, questa è proprio da fare subito una causa del Codacons a Napolitano, il mal di denti a 90 anni. Di Napolitano, perché non è possibile che lo tenga in condizioni di non poter ricevere tutti questi parlamentari onorevoli che noi rispettiamo perché vanno a fare le proteste sotto il Quirinale. Sì. Però insomma 200 emendamenti non mi sembra un grande problema. Il mal di 8.000 5 Stelle che sono 200. Ho capito, ma Zanda infatti ha detto per noi i 200 di 5 Stelle vanno benissimo, il problema sono gli altri, gli altri 8.600. 8.600. Ma devo dire una cosa, che poi il Napolitano a 90 anni abbia ancora un dente. Me ne rimangono 3 o 68 anni. Insomma, tu sei messo male, però. La protesi. Duole pure lei. E duole pure la protesi, non lo so. Sul Corriere c'è un dentista che cura gratis i bambini. Hai visto chi vengono? Ecco, questo Rienzi, questo mi fa molto arrabbiare, perché oggi sono arrivato, c'è stato un problema di distribuzione a Milano, non mi è ancora arrivato il Corriere della Sera. Allora, come apre? Ecco, qual è? Mi dica il titolo principale del Corriere della Sera. Il titolo principale, ed è quello cui io mi augurerei che il nostro Parlamento si dedicasse un po' di più, il primo è tra le macerie di Gaza, fuoco, morte e lacrime. Poi quello di centro, anche questo principale, tempi tagliati, opposizione in rivolta, corteo di protesta al Quirinale. Eccola. Renzi, non mollo, basta con i no. Oh. E poi in taglio basso, così facciamo taglio tutto. Basso, l'ultimo spettacolo, la chiusura dell'opera, troppi scioperi, teatro in liquidazione, Roma. Oh, questa è la rassegna stampa di Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Ah, no, è eccezionalmente la minaccia, noi lunedì ce ne andiamo. Ma non c'è un articolo di Ainis, il professor Ainis? È in vacanza in India. Ma come in vacanza in India? Ma sì, che ci fai in India? Il Parlamento indiano, sì, è in India. Ma che studia? Ufficialmente, guarda, già da un giorno è in India. Torna coi Marò? Speriamo di no, Rienzi. Ma guardi, io sui Marò ho scritto sull'Huffington Post e non mi ripeto, perché no, perché non l'abbiamo letto. Si deve attirare milioni di storia, cioè, voglio dire, sono due persone che sono sotto processo. Ma che sotto processo che li tengono lì fermi a non far niente? Si deve rispettare la giustizia. Ma che mobilitare un intero paese? La giustizia indiana, con tutto il rispetto, ma non li stanno processando, sono da 2 anni e mezzo lì fermi. Sono in ostaggio, Renzi. Scusi. Quando cadde la funivia del Cermis per colpa degli americani. E infatti. Avemmo un atteggiamento diverso. Gli americani si squagliarono. Ma ho capito, ma almeno se li processassero, almeno in 2 anni e mezzo non hanno manco fatto mezza udienza, non si sa neanche, li tengono lì, non lo so, su via. Io non conosco le carte del processo, no, neanche e allora, io. E allora perché però parla? So che è certo che queste due persone hanno accidentalmente, involontariamente ho fatto fuori 2 pescatori. Vabbè, certo, adesso bisognerà vedere appunto nel caso. Lo dicono anche loro. Erano in 10 Marò là sopra. Adesso non facciamo il processo ai Marò, non lo sappiamo, però almeno si facesse il processo, se proprio. Invece, stanno lì fermi, non si sa, le udienze, rinviate. Abbiamo già speso quanto? 8 milioni di dollari per pagare gli avvocati indiani. Erano già in Italia, il governo Monti gliel'ha ridati. Abbiamo speso noi dello Stato italiano. Io non sono d'accordo. Renzi non gliel'avrebbe mai ridati Marò. Vabbè, niente, siamo finiti sui Marò. Sentite la Boschi, vi riporto all'ordine. Maria Elena Boschi che dice ci vuole il referendum, e quindi con il referendum praticamente decideranno i cittadini, non è autoritarismo. C'è chi sostiene che questa riforma sia autoritaria. È falso, ma per fugare ogni dubbio da oggi annunciamo che faremo comunque il referendum e l'ultima parola spetterà ai cittadini. Adesso però possiamo smettere con l'ostruzionismo e concentrarci sui problemi degli italiani. Oh. Dobbiamo affrontare la riforma della burocrazia, delle tasse, del lavoro, della giustizia. Non ci faremo. A me è Vincino, però sentirla mi innamoro sulla sentirla. Ha una voce, mamma mia, la fare... una voce, potete mandarmi un file di un'ora e un quarto di Maria Elena Boschi? Io non lo interrompo, non lo interrompo. Va bene. Ma è una buona idea. No, mettimela in sottofondo, ti prego, tutta la trasmissione. Io c'è una voce che. E l'ultima parola spetterà ai cittadini. Adesso senti questa C toscana, ma neanche troppo. Ma sono innamorato perso. Non... Renzi, scusi, guardi che loro la maggioranza per farla precisa ce l'hanno, senza il referendum. Senza assolutamente. Sì. Vabbè, ma comunque il concetto non ci credo, adesso è. Ma non ci crede. Segreta non ce la fanno assolutamente. Ma quale non ce la fanno? Ma si pare che qualcuno del PD, eccetto quei tre, non fanno. Ma sta scherzando. Ma ce la fa. Vincino, devi chiamare Ainis in India e lui ci scioglierà i dubbi. Lui sa, il professor Ainis. Comunque che sia un'allucinazione, che si tratta di una cosa fatta in modo dittatoriale, non è. Insomma, anche sto tempo. Ma no, le dittature sono altre cose. Le dittature in modo è un termine, no? In modo autoritario, nel senso che non si vuole discutere perché forse è giusto così. Non sto dicendo che non è giusto, ma. Perché non accettare le critiche? Questo è il punto. Ma le critiche si fanno, ma si è discusso, ma poi si voterà. Sono allucinato. È da gennaio che discutono, da gennaio. È da gennaio. Basta, via. Entravano, uscivano a Mazzarino e discutevano. Allora ricordo. Ma le elezioni non abbiamo la legge per il Senato, Abbiamo solo l'Italicum. Basta, si stanno accalorando, mamma mia, ragazzi. Io pensavo che le riforme non interessassero nessuno, invece guardate qua Carlo Renzi, quattro bicamerali me le sono viste tutte, guarda, pure quella del 55, sa tutte le sedute a memoria. Nelli fa una vignetta con la ghigliottina, allucinazioni, anche la vignetta del Corriere della Sera, andiamo a sentire il traffico tutto. E poi la segreteria telefonica. Signore, posso dire una parola un po' forte? Questa gente fa schifo. 24 mattino. Milan, ma come? L'Italia affonda e tu vai in ferie? Torna a bordo, cazzo! Buongiorno Alessandro, fatto tutto quello che dici, ho contato fino a tre, ho respirato, stamani non sono arrabbiato, ci sto ascoltando. Pronto, buongiorno Milan, volevo dirti che fra 52 settimane vado in pensione. La prendo prima io delle tue riforme. La legge elettorale è come il temporale. Prima ci sono i fulmini e poi ci sono i lampi e poi vien giù la grandine e dopo non c'è più un cazzo. Ciao Milan, come stai? Non ti dico che te pozzino via fuoco, perché mo te ne stai andando in ferie, ci lasci a noi in mezzo ai guai con Mineu e Minzulini che li pozzino via fuoco per davvero a quelli due, E lo sai che ti succede quando attorni? Non solo non avranno eliminato un senato, ma invece di due camere ce ne avremo tre. Mila, a posto di Floris, a Ballarò, un mito sei, ciao. Alessandro Milan, vorrei augurarle buone vacanze e mi mancherà perché la mattina mi sveglia un po' dolcemente prima di affrontare gli argomenti seri. Visto che devi stare un mese a casa, vieni a Taranto, ti faccio assaggiare tutte le specialità tarantine. Ti aspetto, vieni con Renzi. Ciao! Buone vacanze Alessandro Milan. Oh, io ci vado a Taranto, sono a Vincino, ma questo vedi è un profluvio di persone, ma che quanto affetto, ma grazie. Aspetta, torna a bordo è forte. Cos'è Renzi? Quella del comandante De Falco, torna a bordo. Esatto, torna a bordo, cazzo. vabbè. E nessuno si è accorto di come questa storia del giglio, scusate se mi permetto. No, adesso non mi deve difendere Schettino, proprio lei, che l'avete usato come testimonial e poi se ne va a fare le feste. feste a Ischia. Esclusiva sulla nostra. Sì, e poi e che ne pensa delle feste, il White Party a Ischia, no, del comandante, mentre lì stavano tirando su la Concordia e lui dice "Spero che non affondi ora, spero allora, che non affondi ora dopo tutto quello che ho fatto". La Concordia tirata su sì. è diventata una cosa ridicola. Cioè stiamo festeggiando di aver tirato su una nave che abbiamo vabbè, fatto naufragare. Vabbè, festeggiamo allora, che festeggiano che i Gabrielli e gli altri si stiano zitti e facciano una messa per i morti invece di fare tutta questa storia. Ma l'hanno fatta, dai, la messa, l'hanno fatta. Come sindaco, proprio il trionfo dell'ipocrisia. Ma come siamo tristi che se ne vanno. Sono stati aperti tutti gli alberghi e tutti i ristoranti per 2 anni e fanno finta che sono tristi, ma mi faccia ma mi facci il piacere, diceva il principe De Curtis. Vabbè, però su dai, no, no. Invece Vincino, una bella vignetta su Schettino, non l'hai mai fatta, Vincino? Su Schettino ne ho fatte, però devo dire che io, seguendo un po' il processo, non sono più così convinto. Eccola, il garantista, eccolo là, il garantista. Sì, invitiamolo alle feste, invitiamolo, facciamolo. Devi vedere l'intervista, Vincino, sul nostro tribù e capirai che è successo. Allora, per la verità, ho questo sospetto che non sia tutto così come ce l'hanno raccontato. No, oggi sto dicendo. Noi dobbiamo sperare che ci sia buon tempo stupendo da qua fino a quando arriva a Genova, perché guarda che la Segolè mica ha ma è chiaro, di infatti, avere paura infatti, di quell'accrocchietto là. L'ha detto anche Schettino, state attenti al vento, è pure meno sfiga adesso. Cioè, miseria, ma guarda che mica è una cosa così scientifica. Ma no che non è scientifica, è una cosa molto delicata. Comunque no, sono qua sulla prima del foglio oggi, eccola qua la vignetta di Vincino, è straordinaria. Presidente, non ci fanno passare 9.000 emendamenti! E lui, Clio, le brioche sono finite, le brioche, mangino brioche, grande Vincino oggi, mangino brioche al popolo, mi sembra un po' del Fatto Quotidiano, con questa vignetta, stava bene in prima pagina del Fatto Quotidiano questa vignetta. Ma sai, vignetta. Tra il fatto e il foglio, poi in realtà, come dire, no, cioè, guarda che Ferrara ti caccia. Ferrara ti caccia, stai poi attento. Io e Mauro siamo intercambiabili per molte cose, in che lavoriamo senso? Bene insieme. No. Quali cose? Poi siamo qua, c'è cioè Grillo che è in vacanza da 2 mesi, da un mese e infatti, mezzo. Infatti, si lamentano con me. E finirà a settembre con 2 giorni solo di pausa quando è venuta a Ma poi quelli che mi dicono: ma vai in ferie l'Italia in crisi? Ma io che devo fare con l'Italia in crisi? Ma che ci posso fare? Io, ma mica sto in Parlamento, mica sto in governo. Dovresti rimanere. Ma per chi? I giornalisti come te di informazione fino all'8 agosto dovrebbero stare. Chiodo. Ma c'è tutta Radio 24, ma ci sono i giornali radio, ci sono gli altri programmi. Non è che approvano una riforma del Senato e Radio 24 non ve lo farà sapere. Il Codacos non va in ferie. Il Codacos tiene sempre alta la bandiera. Radio Codacos c'è, c'è solo il TV Codacos. E fate una radio che vengo a lavorare lì, dai Rienzi, così litighiamo a Radio Codacos. Pagano poco. Ah sì, pagano praticamente niente. Ecco, poi non vengo più, va bene. Allora Vincino, a Mondello che fai? Invece, no, perché tra l'altro Vincino ci sta dicendo che è a Mondello. Adesso rompono i maroni a tutti e poi Vincino dove sta? A Mondello. E non sono ferie. Tra mezz'ora vado a prendere i giornali, poi vado all'antico chiosco dove fanno dei cornetti meravigliosi, delle cose incrociate, caffè, cappuccino e cornetto, sto là un'oretta a leggere i giornali e guardare la piazza, c'è il mare, il coso, insomma, là, e poi più tardi a fare il bagno. Vi rendete conto? E fanno la morale a me. Ma scrivete a Vincino su Twitter, è Vincino Web. Vincino Web. Io alle 4:05 accendo il televisore e sto là a guardare tutto il ridisegno. Però aspetta, Vincino, mi devi dare una perla che noi twitteremo tra poco sul Movimento 5 Stelle, che valga per tutta la vacanza, ovviamente. Perché una valga per tutta la vacanza è complicata. Non so che ne pensi di Paola Taverna che dice: fatevi passare, sono una senatrice. Ma lei proprio è accastata di natura, lei proprio, come dire. Da cittadina a senatrice. Da cittadina a senatrice. Accastata, cioè come casta. Accastata di natura, lei proprio c'ha proprio la forma, insomma, mentre una guarda la la ministra dice no, questa non è casa, la Boschi, mettimi l'audio della Boschi. Carmelo, rimettimi l'audio della Boschi, fammi sentire la voce, non importa. Senti un po'. Falso, ma per fugare ogni dubbio da oggi annunciamo che faremo comunque il referendum e l'ultima parola spetterà ai cittadini. Che bella voce. Adesso però possiamo smettere con l'ostruzionismo e concentrarci sui problemi. Ecco, di fronte a un appello così, smettere con l'ostruzionismo detto così, ma io lascerei, butterei giù la penna. Non potrei resistere, non potrei fare ostruzionismo per mezzo secondo di più dopo certo. Cioè, non... Vabbè, e poi su, su Di Maio, allora Di Maio, dimmi una cosa Di Maio, su Di Maio, quello l'Andreottino nostro e cosa che sta studiando perché poi lui sarà a capo di una correntina del PD tra poco, non sì. È che quando quelli però il problema è che questi senatori qua che hanno vinto il Senato con sì. 50 preferenze, 40 hanno scattato, hanno avuto questa fortuna in mano, stanno là e come ora glielo levano. Cioè Grillo gli ha detto due legislature, non di più, però due però manco mezza, che discorso è qua? Neanche mezza. È un po' troppo, è un disegno, infatti io sono arrabbiatissimo. Tu li vedi il professorino di l'avvocatuccio di Catania, no? quello là che è Giarrusso, Giarrusso è terribile, Giarrusso. Ho fatto i cortei, cosa è quello, l'avvocatuccio di Catania. Vabbè, ho un minuto, devo chiedere a Renzi se ci svela in 10 secondi cosa è successo tra lei e Di Pietro. Dai, 10 secondi, quella è una cosa interessante, divertente, molto seria. È molto seria, ce la racconterà a settembre. Allora, gli ultimi 10 secondi, Vincino. Ma ci ha lasciato no, con questo dubbio qua. Lo so, ma è da tre mesi, c'è sta farsa. Vincino, voglio sapere dove andrà in vacanza il busto di marmo di Andreotti. Sta là a fare la guardia, a casa di Roma, perché è intrasportabile. Poi lui proprio per starla bene, tranquillo, non ci sono i piccioni che gli cacano addosso. Sì, infatti dovrò pulirlo perché lo trovo giallo di cose che gli Fermati lì, buone vacanze, grazie. Il Parlamento chiude, riaprirà il 1° settembre, ma dopo il GR siamo con la rassegna stampa. Che te pozzino via fuoco, ciao Mila. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. E oggi, giorno in cui si chiude la 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché 64esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, cari amici di 24 mattino, leggerò i giornali per l'ultima volta. Poi da domani sono in da lunedì sono in vacanza per 24 mattino. Rimango per fare Platone con Leonardo Manera il sabato alle 9, ricordate questo appuntamento, quindi domani mattina per esempio alle 9 del mattino saremo qui, ma oggi 24 mattino va in ferie con oggi e ci ritroveremo poi a settembre. Ricordo che oggi parleremo di quello che sta succedendo in Parlamento, faremo anche un po' un bilancio di quella che è stata definita la svolta buona. Allora, come tutti coloro che stanno per andare in vacanza fanno un bilancino, e noi lo faremo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, con Claudio Velardi. Racconteremo dalle 8:15 che cosa ha fatto secondo voi Renzi in questi primi mesi di governo, cosa deve fare, le promesse fatte, le promesse mantenute, insomma cosa ne pensate e cosa vi attende secondo voi da settembre. Parleremo poi alle 9 della vicenda dei tagli alla Camera, i dipendenti della Camera, ne avevamo parlato la scorsa settimana con un po' più di malcelato pessimismo da parte del questore D'Ambruoso. Invece è stato posto questo tetto da 240.000 euro ai dipendenti della Camera, almeno questo è il documento di indirizzo, con una clamorosa protesta proprio dei dipendenti della Camera che hanno accolto la presidente Boldrini e tutti i membri dell'ufficio di presidenza a dire bravi, bravi, complimenti, con applausi ironici. Se la sono presi anche con i giornalisti, una clamorosa protesta senza precedenti dei dipendenti della Camera. Alle 7:20, pronti a leggere i giornali, via! In questo venerdì 25 luglio i titoli, Il Sole 24 Ore apre così: taglia vincoli per le imprese. Al Senato il sì della Commissione al decreto legge competitività. Mentre l'apertura del Corriere della Sera: tempi tagliati, opposizioni in rivolta. Cosa sta succedendo al Senato? Anche per Repubblica Riforme è battaglia, le opposizioni marciano sul Colle. Il Fatto Quotidiano mette proprio la foto di questa marcia di 100 parlamentari col titolo La rivolta. Opposizioni, protesta al Colle, così per La Stampa, mentre Il Giornale è polemico: politici in piazza, a casa mai? Questa è la domanda polemica del Giornale. Bagarre, riforme, assedio al Colle, questo è il titolo del Messaggero. Stretta sul Senato è caos, questo invece è il titolo dell'Unità, mentre Libero si concentra su un'altra emergenza. L'Italia è un campo profughi. Ci sono una serie di foto che dimostrano come le città italiane in alcune zone siano letteralmente invase da profughi sbarcati nei giorni scorsi, soprattutto a Lampedusa. Tagliatori di teste, questo invece è il titolo del Manifesto, e la foto a corredo è di Giorgio Napolitano e Matteo Renzi. Tagliatori di teste. Ma partiamo proprio dalla questione degli stipendi alla Camera. Se volete potete tenere le mani strettissime sul volante, che valga per tutta l'estate. Marta Paris racconta sul Sole 24 Ore a che punto è allora questa vicenda del tetto da 240.000 euro fissato ieri. È il tetto che c'è per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ma non ci stancheremo mai di dirlo e lo ripetiamo, per la Camera e il Senato vale una autonomia legislativa e quindi lì devono decidere di prendere lo stesso provvedimento. È stato fissato al netto dei contributi da Camera e Senato per la qualifica di consigliere parlamentare questo tetto, 240.000, taglio degli stipendi con proteste. Eccolo qui anche Diodato Pirone, che è stato nostro ospite, giornalista del Messaggero. La scorsa settimana: taglia le camere, dipendenti in rivolta. Dopo l'annuncio del piano, urla, proteste, fischi dei lavoratori nei corridoi del Parlamento. Boldrini che li invita a guardare l'Italia reale. Ma racconta Pirone: mai, non era mai successo a memoria d'uomo che gruppi di dipendenti della Camera, lavoratori super stipendiati, super pensionati, per mantenere e garantire la loro totale neutralità nei confronti della politica, invadessero i corridoi in Montecitorio per urlare contro alcuni deputati. È accaduto ieri, attorno alle 9 di mattina, quando al termine di una breve assemblea regolarmente concordata, un centinaio di dipendenti della Camera, atteso che finisse la riunione del comitato di presidenza dedicata al piano tagli dei loro stipendi, a larga maggioranza col voto di Fratelli d'Italia e l'astensione della Lega. D'improvviso il finimondo. Urla, fischi, applausi ironici e corretti da stadio. Bravi, bravi, fate il bis, grazie. Hanno scosso il silenzio del corridoio dei busti, accompagnando i deputati che alla spicciolata lasciavano la presidenza per recarsi in aula. La manifestazione è stata definita così da Laura Boldrini: sono rattristata. Invito i nostri dipendenti a responsabilità e consapevolezza, perché il paese reale è un altro. E anche Mattia Feltri sulla Stampa: l'adunata dei commessi. No al taglio degli stipendi, le accusa la Boldrini, non siamo una super casta. Devo aprire qui una parentesi: la scorsa settimana, poi lo racconteremo alle 9, anzi due giorni fa, dopo la trasmissione, mi chiamano dal centralino del Sole 24 Ore, dico le devo passare un signore tal dei tali, di cui non dico per privacy nome e cognome, e me lo passano, perché io sono così, ricevo le chiamate, se uno mi chiama e dice sono un ex dipendente della Camera in pensione, sono disgustato, mi ha detto, di come avete trattato questa vicenda, persone che hanno lavorato 30 anni, persone che si fanno un mazzo così dal mattino alla sera per 12, 14, 16 ore senza turni, mi ha detto che ha due figlie che non hanno un lavoro, e questo mi dispiace, ma non vedo cosa c'entri con la questione. Insomma, mi ha riversato una rabbia, come dire, insomma, avete trattato come se fossimo una super casta, e io gli facevo presente semplicemente che non mi sembra non mi sembra una cosa punitiva, una ghigliottina, quella di stabilire che se nella pubblica amministrazione anche il capo della polizia guadagna al massimo 240.000 euro, che non penso sia una persona con poche responsabilità il capo della polizia, anche i dipendenti di Camera e Senato possono avere come tetto 240.000 euro. Non mi sembra una grande tragedia, non mi sembra che lì si debba avere qualcosa di diverso rispetto a quello che succede nel paese. Però evidentemente non sono riuscito a fargli minimamente breccia nelle sue radicate convinzioni. In ogni caso, la Camera taglia dipendenti in rivolta anche per Repubblica. E attenzione, perché il Libero racconta che in realtà sono tagli farsa. Ecco, non so perché, o meglio, Franco Bechis lo spiega: commessi in rivolta contro i taglietti della Boldrini è il finto taglio di stipendi col tetto a 240.000 euro. Ma le norme sono blande, così Franco Bechis a pagina 7 di Libero spiega in realtà che la farsa sta diventando completa, perché nel documento originario, oltre al tetto dei 240.000 euro, si stabilivano i tetti massimi delle varie categorie indicando anche la cifra, ma sono comunque calcolati al netto delle trattenute previdenziali che andavano aggiunte con la possibilità di consentire il cumulo dell'indennità di funzione particolari, e quindi il tetto salterà e poi sarà un tetto applicabile in futuro. Quindi per Libero non è neanche questo grande tetto promesso. Ne parleremo alle 9. Alle 9 sarà con noi Diodato Pirone del Messaggero, l'onorevole Marina Sereni, vicepresidente a Montecitorio e che si è occupata di questa vicenda in prima persona, e Edmondo Cirielli, che fa parte dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, è l'unico che ha votato no a questo tetto, e cercheremo di capire perché. Ma tenete sempre ben strette le mani sul volante, perché il Messaggero con Sonia Oranges racconta che al Senato, sebbene non serviti da camerieri in livrea, si può ancora pranzare un pranzo completo a 10 euro. Privilegi bipartisan in Senato, pennette, branzino e dessert a 10 euro. Guardate, non mi scandalizza tanto questo, tanto sono scritti libri, articoli, eccetera, sulla casta, eccetera. In qualsiasi ristorante aziendale si può mangiare con meno di 10 euro. La cosa che mi scandalizza di più è ciò che il Messaggero racconta a un certo punto, alla fine. Scusi, posso pagare con il bancomat? No, mi spiace, non abbiamo il POS. Ma come? Al Senato il POS! Ma hanno fatto una legge per rendere obbligatorio, commercianti, per rendere obbligatorio il POS in tutta Italia, al ristorante del Senato, là dove si fanno le leggi, non c'è la possibilità di pagare con la carta di credito. Guarda te che sono delle stranezze veramente, veramente incredibili. Questo racconta il Messaggero. Ricordate, prima della pubblicità, la vicenda in America del risarcimento di non so quanti miliardi di dollari per una vedova di una persona morta di tumore per il fumo? Ebbene, ora anche in Italia arriva un risarcimento. Non è il primo, per carità. Morì di cancro al polmone, 1 milione di euro a moglie e figli. E lo ha deciso il Tribunale di Milano, che ha condannato lo Stato, gli ex monopoli di Stato, la British American Tobacco, l'ex ente tabacchi italiani, è stata condannata a risarcire con quasi 1 milione di euro i familiari di un impiegato milanese morto di tumore polmonare dopo aver fumato dalla metà degli anni 60 fino al 2004 circa 1 milione di sigarette, in pratica 1 euro a sigaretta fumata. In questa macabra contabilità, racconta Paolo Colonnello a pagina 18 della Stampa, gli avvocati Carlo Gasparro e Angelo Cardarella dicono, tenuto conto del valore della causa, dello sforzo defensionale impiegato nella più classica delle battaglie tra Davide e Golia, i giganti erano come sempre quelli del tabacco, dicono loro. E comunque, 2 pacchetti al giorno. C'è anche un'intervista alla vedova sul Messaggero, dice: mio marito ha provato tante volte a smettere di fumare, diceva basta, da oggi non fumo più, si chiama Raffaella Scippa, lei ha deciso di sfidare i colossi del tabacco. Ero in metropolitana, un passeggero ha lasciato un giornale sul sedile, ho sfogliato, ho visto la fotografia di un uomo morto per tumore causato dal fumo e risarcito, e mi son detta proprio come il mio Antonio. Ho iniziato questa battaglia molto impegnativa, ma alla fine abbiamo vinto. Certo, la domanda è: ma di chi è la colpa per una morte come quella di suo marito? Lei risponde: a colpa chi fuma, ma anche chi produce e vende le sigarette. Le società sono perfettamente al corrente che fanno male. Beh, qui però si può dibattere. Sì, sono al corrente, ma avvisano anche. In ogni caso, un tribunale di Milano, come raccontano anche tutti gli altri giornali, il Corriere della Sera: morte di un fumatore, l'ente tabacchi risarcirà 1 milione, condannati a pagare anche il funerale. E così il giorno: morì di cancro per colpa del fumo, risarcimento milionario ai familiari. 24 mattino. Eccoci alle 7:33 minuti. Allora, ieri è stata una giornata alquanto caotica dal punto di vista politico, perché quando a un certo punto si è deciso che da parte della maggioranza si voterà al massimo all'8 agosto per porre un freno tramite meccanismi parlamentari di contingentamento dei tempi, una sorta di tagliola, l'8 agosto, cioè entro l'8 agosto si deve votare questa riforma del Senato, il primo voto al Senato ovviamente. A quel punto l'opposizione ha detto: basta, marciamo sul Colle. Ed è successo un qualcosa che ha pochi precedenti, cioè 100 parlamentari circa delle opposizioni sono andati proprio dal Quirinale con l'obiettivo di incontrare Giorgio Napolitano. Peraltro incontro che non c'è stato, perché come ha detto il segretario generale del Quirinale Marra, il presidente Napolitano aveva una lieve indisposizione, un mal di denti, racconta Repubblica, e non li ha neppure ricevuti. Ma comunque questa è la giornata di ieri: il Senato stringe i tempi, via libera entro l'8 agosto e le opposizioni corteo al Colle, questo è uno scempio. Così inizia Carmelo Lopapa il suo articolo racconto su Repubblica. La prima di un corteo parlamentare al Quirinale è un lungo cordone silenzioso che sale dal Senato per il cuore di Roma, passa davanti Montecitorio e poi fin su per la scalinata laterale che porta al Colle. Il carabiniere abbozza una resistenza: mi spiace signori, non si può passare. Il cordone di militare in tenuta antisommossa, manganello alla cinta, prova a bloccare i primi che arrivano in cima. Ma obietta la grillina Paola Taverna: non sono una signora, sono una senatrice. Io conto quanto il due di briscola, gli controbatte il militare. Gli onorevoli si fanno largo, il mini cordone viene pacificamente sfondato e si piazzano davanti al portone. Dopo una piccola mediazione con il segretario generale del Quirinale Marra, che dice: scordatevi di entrare tutti al Quirinale, entreranno solo i capigruppo, e con lei Loredana De Petris entrano Gianmarco Centinaio per la Lega e Vito Petrocelli per il Movimento 5 Stelle, mentre Giorgia Meloni dei Fratelli d'Italia resta fuori a presidiare, non avendo senatori ed essendo lei deputata. Ma nonostante entrino e nonostante Beppe Grillo tuoni democrazia uccisa, il Presidente della Repubblica non li incontrerà. Lieve indisposizione. Roberto Calderoli, che è correlatore del provvedimento su Repubblica, pagina 3, fa un'intervista e dice: il titolo è tutto in vacca, cercano pretesti per votare. Per dirla in inglese, ha mandato in vacca tutto. Le riforme entro l'8 agosto non si approveranno, così dice Calderoli, che in genere è uno che sa come funziona in Parlamento. La cosa che fa veramente male è avere tutti i colpi in canna per avere una buona riforma e vedere che tutti sparano alla luna. Ma lei in aula ha lanciato un nuovo appello al dialogo. Ma per dialogare bisogna essere in due, dice Calderoli, e quando si fanno domande si risponde che il tempo è bello. Lei punta il dito contro il premier, chiede Silvio Buzzanca. Io ho coinvolto tutti nella responsabilità dell'accaduto, ma un governo che sollecita il contingentamento nella capigruppo non è cosa che si vede abitualmente. dice Calderoli, l'8 agosto, quel giorno si prenderà atto che ci saranno ancora 1000 emendamenti da votare, a quel punto si riunirà la capigruppo per continuare fino al 10 o tornare a vederci il 17. Non prevedere questo è da irresponsabili, a meno che non si cerchi l'incidente per andare al voto. Non sembra che sia questo l'intento di Matteo Renzi, almeno nella lunga intervista colloquio che concede ad Alan Friedman, che sarà sulla 7, ma che viene anticipata tutta dal Corriere della Sera oggi. Renzi, noi andiamo fino in fondo, no alla dittatura della minoranza. Bella questa immagine, perché Renzi ribalta le accuse, di fatto lui che è accusato di essere dittatore autoritario ribalta e dice no alla dittatura ma della minoranza. Eccolo qui l'articolo di Alan Friedman a pagina 6 e 7, c'è un gruppo di persone che dice no da sempre e noi senza urlare diciamo sì. Poi parlano di altri temi, la nostra priorità è il lavoro, ma le statistiche, credo, inizieranno a migliorare solo dal 2015, dice Renzi, che poi rassicura anche le imprese. Entro il 21 settembre dovremmo riuscire a pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione, ma la somma sarà molto meno dei 60 miliardi. La cifra esatta, spiega, sarà calcolata entro 10 giorni. Certo, dovremmo riuscire a pagare tutti, e questa dei debiti della pubblica amministrazione, ricordo, se ricordo bene, è la promessa fatta da Bruno Vespa: se non li paghiamo entro il 21 andrò in pellegrinaggio, così ha detto Matteo Renzi, se ricordo bene, ora dice dovremmo riuscire a pagarli tutti, ma non sono 60 miliardi ma una cifra che sarà calcolata entro 10 giorni. E poi sulle riforme la maggioranza terrà, ma se sul voto segreto andasse sotto su 1, 2, 3, 10 emendamenti poi si va alla Camera e per ogni voto segreto che non è andato bene al Senato recupereremo alla Camera. Insomma, un Renzi che tiene duro, e sul Jobs Act, sul quale chiede qualcosa Alan Friedman, dice ci sarà molta confusione, non lo so, penso di sì, che ci sarà discussione, ma anche che ci sia arrivato, che sia arrivato il momento, perché l'Italia ha bisogno di cambiare tutta. La riforma del Senato serve per dire che allora bisogna fare diverso il lavoro, diversa la giustizia, diverso il fisco, diversa la burocrazia. Come dire, Renzi dice si parte dal Senato e poi si cambia l'Italia. Staremo a vedere, c'è da dire che questa opposizione, secondo il Fatto, è il nuovo Aventino, porta in faccia al nuovo Aventino, questo è il titolo a pagina 3, porta in faccia, perché Napolitano di fatto non ha ricevuto i responsabili di questa marcia sul Colle. E tra l'altro purtroppo, e qui nel dirlo introduco il nostro Mauro Meazza, sul Sole 24 Ore ci sono invece i dati del Fondo Monetario Internazionale, caro Mauro, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita globale, mi sembra, racconta Merli, che siamo all'ultimo posto delle 4 economie più forti dell'Eurogruppo. Eccoci, buongiorno Mauro. Buongiorno, beh, sempre meglio un appoggio di questo tipo che non quelle cose su arrestati, indagati, manette. E oggi non ho trovato nulla. Oggi sei buono, lo so, perché sei buono e so anche perché. Che devi fare? Mi tocca andare in vacanza, mi dispiace. Senti, io non so se le previsioni, io spero naturalmente che le previsioni del Fondo Monetario Internazionale siano sbagliate per difetto, però insomma non è il primo dato che segnala che la nostra crescita è debole. Ecco, però Mauro, aiutaci a capire questo. Adesso torniamo seri per un attimo. C'è questa frase di Renzi che io ho capito poco, cioè a dire è vero, le stime di crescita non sono molto alte, sono lo 0,3, ma anche se fossero lo 0,3, lo 0,8, lo 0,6 o l'1,5, questo non incide sulla quotidianità delle persone. È davvero così? Non sono convintissimo, per carità, sicuramente il Presidente del Consiglio è più preparato di me, però il problema è che se noi non cresciamo abbastanza, continua a non essere favorevole quel famoso rapporto deficit-PIL, appunto perché il PIL non cresce, e quindi alla fine c'è un bisogno di equilibrio nei conti diverso Detto molto brutalmente in italiano, se cresciamo troppo poco potrebbe servire un'altra manovra. Ecco, ho detto potrebbe, ha detto però... che non ci sarà. Ha detto non seminare zizzania anche tu. No, no, ma ho usato il condizionale, però mi sembra che anche stamattina su qualche giornale anche Renzi dovremmo pagare i debiti della pubblica amministrazione, dovremmo. Rivendico non la condizionale, visto che mi vuoi sempre arrestare, ma il condizionale. Mi sembra giusto, non fa una cosa. Vorrei dirti, scusami, c'è una comunicazione importante. Sì. Il 770 sì? Potrebbe, ho detto potrebbe. Ma l'hai detto anche ieri, potrebbe. Ho capito, però. La settimana decisiva è la prossima, non puoi andare in ferie. Okay. Per il 770 la settimana decisiva è la prossima. Questa è la settimana del condizionale, benissimo. Questa è la settimana del condizionale, potrebbe, ho detto potrebbe slittare al 15 di settembre. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore a firma di Luca De Stefani e di Francesca Milano, lo ha annunciato, ha dato questo spiraglio il sottosegretario Zanetti e devo dire che lo ha scritto su Facebook prima prima che venga riportato sul Sole 24 Ore, è apparso su Facebook, la cosa mi ha lasciato un pochino perplesso, ma accettiamo anche Facebook tra le fonti di cui facciamo affidamento. No, potrebbe, scherzi a parte, slittare, così è l'indicazione, al 15 di settembre. Sei più sereno adesso? Perché ieri anche era potrebbe, quindi sarò sereno quando avremo una sicurezza da una parte o dall'altra. Vabbè, ma resta al lavoro anche lunedì prossimo. Che ci vai a fare in vacanza? Siamo pieni di scadenze decisive e tu te ne vai, e questo secondo me insomma è anche un po' interruzione di pubblico servizio, visto che potremmo anche metterlo in questo modo. Non ti ci mettere anche tu. Allora, gli ebook, caro, gli ebook pagano l'IVA al 22%. Tu dici, però non, insomma, come dire, purtroppo non si può fare altrimenti, perché le norme IVA sono norme europee, e allora il libro di carta paga un'IVA molto più bassa, e invece l'ebook la paga al libro digitale la paga al 22%. Spiace, ma così hanno chiarito anche, ribadito anche le entrate ieri. Tutti i particolari, indovina un po' dove? Su norme e tributi. L'importante è che per non equiparare il tutto aumentino l'IVA anche sulla carta, ecco. No, l'Agenzia delle Entrate non sembrava orientata in questo senso. Senti, invece su Finanza, la vicenda Alitalia, il tormentone di Alitalia, le Poste che hanno dei dubbi, diciamo, hanno delle reticenze ad aderire, e ci sono un po' di problemi su questo salvataggio di Alitalia da parte di Etihad, ma adesso non ti posso riassumere un Gianni Dragoni assolutamente da leggere oggi sulla prima pagina di Finanza. Invece ti posso dire, vanno avanti le privatizzazioni e gli accordi internazionali. Ieri abbiamo siglato questa intesa con China, China State, che è già State Grid, non ero preparato, ma qui tra il 770 China State Grid, uno poi si perde, un condizionale e l'altro. China State Grid che entra nel capitale di CDP Reti, praticamente l'entità che controlla Snam Eterna. E andiamo avanti con queste cose con i cinesi, lo riferiamo sempre in finanza questa volta, vedi che non sempre ti consiglio. Però come ieri ci raccontava Alberto Forchielli, rimangono in minoranza, non sono soci di maggioranza, e questo per la lettura di Alberto Forchielli è un bene, perché i cinesi è meglio tenerli anche dentro, ma in minoranza, non come questo soci poi di maggioranza. Ci sono poi anche a volte in alcuni settori dei vincoli, per cui se la maggioranza è comunitaria, europea, hai un trattamento, e invece un caso diverso potrebbe essere se la maggioranza non è comunitaria, non è europea. E poi un'ultima cosa, c'è un preoccupante calo di valori per il parmigiano reggiano. C'è un crollo dei prezzi. Mangiate parmigiano reggiano. Mangiamo un po' di parmigiano reggiano. Visto che sono crollati anche i prezzi, fa bene. Ecco, sono crollati i prezzi, è un momento favorevole per il parmigiano reggiano. No, in realtà è un indicatore anche abbastanza utile che, come dire, segue l'andamento non brillante, usiamo un eufemismo, dei consumi interni in Italia. E allora Mauro... Veramente lunedì cosa facciamo? Ma niente, Avanti, forse ci sarà qualche collega del Sole 24 Ore, toccherà anche a te, prima o poi, stai tranquillo. Ma non lo so, vedremo, ci metteremo d'accordo. Io spero sempre di farti recedere dalla tua decisione, magari intervenendo d'imperio sull'ufficio del personale. Ma adesso... puoi provare, adesso appena finito andiamo insieme e vediamo un po'. Recchiamoci insieme dal direttore del personale e vediamo che cosa possiamo fare. Okay. Va bene, tocca a me? Tocca a te. Dirlo? Tocca a te. Oh, traffico! Milan chi? Mi sembra giusto, Milan chi? E allora, siamo qui, ultimi scampoli di rassegna stampa della stagione per quel che mi riguarda. E lo sfogo di Galan in carcere, nell'ospedale carcere, nell'infermeria di Opera, lo hanno raccolto Daniela Santanchè, un consigliere regionale che sono andati a trovarlo in carcere. Dice Galan, come racconta il Corriere della Sera, ho chiuso con la politica, mai avrei immaginato che la Camera votasse così. Altro Maurizio Giannattasio racconta nel suo articolo a pagina 16 del Corriere che, secondo il Corriere del Veneto, Galan avrebbe preso commiato non solo dalla politica ma anche dalla massoneria a cui era affiliato dal 1987 la loggia del Grande Oriente d'Italia. Ha chiesto di mettersi in sonno dalla loggia massonica a cui era iscritto. Diamo uno sguardo internazionale, ci sono tante notizie, una riguarda anche in particolare l'Italia, purtroppo si continua a morire a Gaza. Raccontano rimpallandosi le responsabilità Israele e Hamas per questa strage che è avvenuta a Khan Yunis in una scuola dell'ONU che è stata bombardata. In quella scuola però avevano trovato rifugio molte persone, civili, anche donne, bambini morti. Quei banchi macchiati di sangue, questo è il titolo del reportage a pagina 2 del Corriere della Sera di Davide Frattini. Racconta il figlio più grande, accompagna Talib e prova a trascinare la bottiglia più piccola, non abbandona il pupazzo dai capelli viola, lo tiene con sé. Anche nella camminata di ritorno, 10 litri d'acqua fresca per i 25 tra cugini, fratelli, nonna. Sono scappati da Umm al-Nasser una settimana fa, ancora prima che gli israeliani lanciassero i volantini di avvertimento, evacuate le case. Adesso vivono accampati in una delle scuole delle Nazioni Unite che accolgono gli abitanti dei villaggi di Gaza. In una di queste scuole però c'è stato il bombardamento, gli ufficiali dell'esercito dicono che è stata aperta un'indagine, che è zona di combattimento, ripetono, da lì i miliziani di Hamas hanno attaccato le nostre truppe. Ricordano che i razzi, colpi di mortaio sparati dai fondamentalisti verso le città israeliane sono a volte cadute dentro la striscia e questa potrebbe essere la causa della strage. Insomma, Hamas dice Israele ha bombardato la scuola, Israele dice i razzi lanciati dalla striscia a volte non arrivano fino in Israele ma cadono prima, cadono nella striscia stessa e quindi potrebbe essere questo un razzo palestinese, un razzo di Hamas che ha colpito la stessa scuola. Come dico sempre, ricordate che in guerra la prima vittima è la verità, sta di fatto che l'unica cosa certa, questa vera, questa non discutibile, sono i morti, purtroppo. Tra l'altro c'è una vicenda che riguarda l'Italia e annessa in qualche modo a questa storia, riguarda se non altro un ambasciatore, l'ambasciatore Peter Zeminali Szabo, che è stato nominato ambasciatore dell'Ungheria in Italia. Da Budapest a Roma la Anti-Defamation League scrive al nostro ministro degli esteri: rifiuti le credenziali di quell'ambasciatore, è un noto antisemita. La protesta delle associazioni ebraiche nei confronti dell'ambasciatore ungherese nominato in Italia nel governo retto dal Partito Nazionalista di Destra guidato da Viktor Orban in Ungheria. Lui sarebbe un antisemita, è un poeta, scrittore, commentatore politico di destra, è stato nominato dal governo ungherese ambasciatore in Italia. Poi vabbè, gli esteri regalano anche la vicenda che si è conclusa positivamente, l'arrivo in Italia di Meriam, questa sudanese cristiana che per non rinnegare la propria fede è stata condannata a morte per apostasia dell'Islam e poi è stata tumultuosamente liberata dallo stesso Sudan e ora Ora l'Italia è riuscita a farla arrivare qui, è stata ricevuta anche dal Presidente del Consiglio in persona, anche dalla moglie di Renzi, Agnese. Ci sono le solite polemiche, lo spot, non lo spot, insomma noi mettiamo in polemica tutto e magari mettiamo in secondo piano la notizia più importante, l'unica che conta, e il fatto cioè che questa donna, che era stata condannata a morte e ha dovuto partorire in carcere perché si era rifiutata di convertirsi all'Islam, adesso è libera. E infatti il titolo di Avvenire di prima pagina è quello, al di là di tutte le polemiche, che più mi interessa: Maryam adesso può vivere. Oh, ecco, questo è l'aspetto importante. Poi tutto il resto lasciamole all'italietta di polemiche. La gioia, il dovere, anche il commento di Marco Tarquinio, cioè il direttore di Avvenire: la madre sudanese condannata a morte per apostasia, costretta a partorire in carcere, finalmente libera. È arrivata in Italia e ora si trasferirà in America. È stata ricevuta, c'è anche la foto che campeggia in prima pagina di Avvenire, dal Santo Padre, insomma da Papa Francesco, che le ha detto grazie per questa testimonianza di fede. Mentre purtroppo si registra un nuovo aereo caduto, è abbastanza incredibile quello che sta succedendo negli ultimi mesi. Dopo l'aereo della Malaysia, un altro aereo in Ucraina, questa volta abbattuto, ora in Mali è precipitato un aereo algerino, 116 i morti. Ovviamente c'è mistero, c'era brutto tempo, ma si racconta anche è una zona di guerra. Certo, però i piloti hanno detto: siamo investiti da una forte pioggia, chiediamo di alzarci di quota e cambiare rotta. Queste le ultime parole del pilota algerino, e poi si sono perse le tracce. Degli esteri vi segnalo anche un articolo interessante di Anna Zafesova sulla storia di Vladimir Putin. Esce un libro tra poco, un autore, l'autore del libro ha intervistato, si tratta di Ben Judah, su Newsweek ha pubblicato un'anticipazione del prossimo libro, frutto di 3 anni di interviste a intimi del presidente. Volete sapere come vive Vladimir Putin? Ha pure l'assaggiatore per il cibo, non usa internet e cellulari, diffidandone da buona ex spia. Quando va in giro in tutti gli alberghi si usano le lenzuola e gli asciugamani che si portano dietro dal Cremlino, sigillati e disinfettati. È molto prudente sul cibo, non beve, non fuma, c'ha i cuochi personali, c'ha l'assaggiatore. Oh ragazzi, dura la vita per essere a capo della Russia, come dire, teme qualcosa. Ultimi scampoli di cronaca per dire che a Varazze, come racconta il giornale, incredibilmente a pagina 3 è stata data una multa al gelataio che ha regalato un cono a un'amica. Ha detto: tieni, ti regalo un cono gelato. È uscita questa amica che voleva pagare. No, no, no, te è un regalo. Lo scontrino, si presentano due della Guardia di Finanza. Signora, lo scontrino, ma me l'ha regalato un cono. 300 euro di multa per questo gelataio che ha regalato un cono gelato all'amica. Poi La Stampa racconta con Franco Giubilei a pagina 16 che la banca Intesa San Paolo è l'ennesima società che riconosce le coppie gay, garantendo loro, per chi si sposa all'estero, il congedo matrimoniale. La banca riconosce le coppie gay, la legge in ritardo sulla società, il gruppo Intesa San Paolo sì ai congedi matrimoniali per i nostri dipendenti. È solo una delle tante società che stanno iniziando con questa pratica. E poi la notizia buona, positiva, che racconta il Corriere della Sera, è davvero bella, una bella storia, racconta Marco Gasperetti a pagina 21. A Grosseto il dentista Giovanni Valenti, che insieme alla moglie dice: una volta alla settimana, per chi non ha soldi, curo i denti soprattutto dei bambini gratis. Questa bella storia raccontata da Marco Gasperetti sul Corriere della Sera. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile oggi sui giornali è di Toni Damascelli sul giornale che stravince quest'anno la classifica. Buon compleanno Tom Tom, 10 anni del Tom Tom, il navigatore che ci fa andare per la retta via. Andiamo per la retta via al giornale radio, va! 24 mattino. A Alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, visto che oggi è l'ultimo giorno di 24 mattino e poi andiamo in ferie fino a settembre, che dire, è il momento di fare un po' un punto, un bilancio anche della politica, della stagione, di quelli che sono stati questi mesi di renzismo, di Renzi al governo, della svolta buona, come è stata la promessa del Presidente del Consiglio. Chiedo anche a voi, cari ascoltatori, cosa ne pensate. 800 24 00 24, cosa ha fatto, cosa ha promesso, cosa ha messo in pratica, in che cosa invece è mancato secondo voi nell'azione di governo. Certo, oggi in un'intervista concessa da Alan Friedman per La 7, che oggi viene anticipata dal Corriere della Sera, Renzi secondo me dice la frase chiave a un certo punto, che è questa: la riforma del Senato serve per dire che allora bisogna fare diverso il lavoro, diversa la giustizia, diverso il fisco, diversa la burocrazia. Insomma, la frase rievoca quel famoso cronoprogramma detto ad aprile, che non è stato rispettato, una riforma al mese, no? Questo almeno lo possiamo dire senza ombra di smentita. Ma dice ora Renzi: riformare il Senato per poi dire che bisogna poi riformare e cambiare l'Italia. Renzi, tra l'altro, in questa intervista ad Alan Friedman dice così: ora che siamo alla fine, però, non si pensi che ci sia una dittatura della minoranza, perché io sono contro la dittatura della maggioranza, ma a maggior ragione siamo contro la dittatura della minoranza. C'è in Italia un gruppo di persone che dice no sempre, e noi senza urlare diciamo sì. C'è chi dice no e noi diciamo sì. Partiamo da qui con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno, direttore, eccoci. Buongiorno a voi. Buongiorno. Così come saluto Claudio Velardi, curatore di The Front Page, editore, insomma, comunicatore della politica. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Padellaro, voi titolate La Rivolta. La rivolta è quella dei circa 100 deputati dell'opposizione che ieri, con questo contingentamento dei tempi per votare la riforma del Senato entro l'8 agosto, hanno detto di no e hanno marciato in una marcia pacifica, ma assolutamente inedita nella storia, verso il Colle, verso il Quirinale. Peraltro Napolitano non li ha ricevuti per una lieve indisposizione. Perché voi da giorni raccontate che addirittura Napolitano ha commissariato il Parlamento? Ma è molto semplice, basta leggere le notizie sulle agenzie. Napolitano si sta dando molto da fare convocando come per carità è suo diritto fare, al Quirinale non soltanto il Presidente del Senato Grasso, che si è trovato in una situazione abbastanza complicata, no? Vedi ghigliottine, poi magari ne parleremo, anche uno dei leader dell'opposizione Vendola, c'è un lavorio, un tramestio al Colle che, diciamo la verità, però da un Presidente della Repubblica dovrebbe essere arbitro tra le parti e tra i poteri, lascia un po' perplessi, per non usare altre espressioni. Cioè, il Presidente della Repubblica perché deve intervenire direttamente perché la riforma del Senato si faccia rapidamente? Insomma, ma verrebbe da dire anche perché no, cioè, nel senso, ma non intervenire, ma informarsi, cercare di dire ma come mai non facciamo le riforme. Se fosse un'informazione, ma per carità, ma gliela diamo noi, ma vado io a informarlo. No, non è così. Il Presidente della Repubblica è parte in questa vicenda delle riforme, lo fa pensando, per carità, di fare il bene del Paese. Non è così che si fa. Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere l'arbitro, no? L'arbitro non si mette a segnare i gol in una cosa, non aiuta gli altri, non aiuta una parte, una squadra a fare gol, ecco. Ma che ne pensa di Renzi, che dice c'è chi dice no e noi invece diciamo sì? Allora, Renzi dice, come al solito, una mezza verità, una mezza bugia, perché lui dice: io sono contrario alla dittatura della maggioranza, siamo d'accordo alla dittatura della minoranza, questo paese è rimasto bloccato troppo tempo, bla bla. Parliamo della dittatura della maggioranza. Lui dovrebbe spiegare agli italiani, a Friedman, che doveva fargli anche questa domanda, che il combinato disposto tra legge elettorale Italicum e svuotamento del Senato ridotto a una specie di camera a disposizione del governo con i nominati, eccetera, fa di fatto, dà di fatto al partito di maggioranza relativa, in questo caso assoluta, visto il super premio di maggioranza alla Camera, non la facciamo tanto lunga, un potere enorme, e da quel momento in poi ha ragione Renzi, da quel momento in poi un Parlamento assoggettato al governo può rapidamente approvare tutte le riforme di questo mondo, e credo che questo sia contenuto nel famoso patto del Nazareno. Sì. Vorrei sottolineare questo aspetto, l'unico patto al mondo che non si conosce, di cui non si conosce il testo, che voi raccontate, che viene, c'è un testo, ma che viene continuamente, sì, viene continuamente richiamato come le tavole della legge sul Monte Sinai. La differenza è che almeno le tavole della legge le conoscevamo, questo non si sa niente. Nulla. Però c'è da dire che io un po' di perplessità quando sento parlare di autoritarismo, per carità, la riforma piace, non piace, ognuno può discutere, lei la critica molto come molti parlamentari, a dire dà troppo potere a chi poi è al governo. Però Claudio Velardi, sì, la questione dell'autoritarismo è una questione che si può accettare. Ieri il ministro Boschi ha detto al limite, alla fine ci sarà il referendum per confermare, e quindi saranno i cittadini alla fine. Io dico una cosa semplice: noi poi facciamo dei brutti mestieri perché siamo costretti a leggere, a studiarci delle cose pazzesche. Voi avete letto gli emendamenti presentati da Minzolini? No, per carità. O gli emendamenti presentati da Sella? Minzolini è quello sulla Duma? La Duma, la Duma dei rappresentanti, la Corte, la Congregazione. Poi ci sono gli emendamenti di Sella, che dicono, un emendamento dice sopprimere gli articoli da 1 a 21, poi l'emendamento dopo sopprimere gli articoli da 1 a 20, poi quello dopo sopprimere gli articoli. Vabbè, ma è ostruzionismo, neanche tanto palesato, è ammesso. Allora, queste sono cose ridicole. Ora, dire che se si per 115 ore da qui all'8 agosto si discute e poi si vota, che cos'è? È dittatura, ma di che stiamo parlando? Mm. È semplicemente, diciamo, il tentativo di fare questa riforma. Allora, io non mi applicherei tanto sinceramente a queste discussioni, perché queste sono discussioni tutte interne al gioco politico. Allora ci sta che giustamente il fatto raccolga le firme contro questa roba, ci sta che Nichi Vendola cerchi di salvarsi perché lui in realtà fa l'ostruzionismo perché vuole che sia abbassata la soglia di sbarramento della legge elettorale per salvare se stesso e i suoi. Cioè, la gita scolastica di ieri al Quirinale era quella, cioè era una marcia di coloro che rischiano, poveri loro, si dispiace, di perdere il lavoro. Che era una gita scolastica. Ma che era una farsa, era una cosa giusto fatta giusto per andare sui giornali stamattina, nulla più di questo. No, vabbè, ma però un'opposizione si può fare a questa riforma. Io effettivamente sulla questione dell'autoritarismo, ma la voglio dire, da una vita, cioè, la dittatura è un'altra cosa, su questo siamo tutti d'accordo. Anche Padellaro, anche lei, immagino, voglio dire, la dittatura è un'altra cosa, cioè discutere una riforma magari che non piace a molti, però poi si vota, il Parlamento è sovrano. Diciamo che, per carità, abbiamo abusato tutti quanti, io non mi sento esente, abbiamo abusato dell'uso di parole grosse per dire cose più semplici, basta dire che quello che dicevamo prima, cioè che tecnicamente le due riforme del Senato e della legge elettorale daranno un enorme potere al governo. Allora bisogna che queste cose però si dicano, si sappiano. Ma io sono d'accordo con Padellaro, no, sai? No, ma è giusto, è così. Allora, viva Dio, meno male. Sì, no, ecco, allora si può anche non essere d'accordo su questo. Volevo dire questo, sono d'accordissimo sugli emendamenti, ma per carità, però Velardi, che diciamo un vecchio lupo di mare, ne ha viste tante, Pannella, vecchio nel senso esperto, non probabilmente sei più giovane di me. No, vabbè. Comunque, a parte questo, quello che non però bisogna dire è che Renzi, il turbo Renzi, il Renzi che ha sostituito la velocità, bisogna fare tutto in fretta, eccetera, in questi mesi, per carità, ha trovato una situazione pessima, eccetera, non ha cambiato di un H la situazione economica del paese, perché l'altro argomento è questo, è il sospetto che attraverso questa riforma del Senato si non si voglia parlare, come si dice, dei problemi, dei problemi reali. Ecco, ma questo, allora, questo è un punto, è un punto sul quale io posso assolutamente assecondarla. Cioè, a me ha colpito, ecco, e anche Claudio Velardi, che ha elogiato Renzi, elogia Renzi per tante cose, mi ha molto colpito questa frase, e non avevo sentito il commento di Stefano Folli, sono contento che, insomma, di pensarla come Stefano Folli. Renzi che ieri dice, è vero, non avremo la crescita dello 0,6%, lo avremo probabilmente dello 0,3%, ma anche se fosse dello 0,1, dello 0,8, dello 0,3, dell'1,5, questo non incide nella quotidianità delle persone. Sì. Questa, ecco, sinceramente, no, questa è una frase, ho capito un po' male. Questa è una frase propagandistica e sbagliata, però il punto è che effettivamente, diciamo, se tu ometti in moto le riforme, che è quello che lui tenta di fare, poi bloccato da tutte le caste italiane, oppure non si rimette in moto l'economia, non è che si rimette in moto con i decreti impositivi, si mette in moto se tu hai un sistema che viene liberato, viene messo in condizione di muovere. E si parte dal Senato. Allora, però attenzione, perché a me, per esempio, beh, certo che si parte dalle istituzioni, e da dove vuoi partire? E per forza parti di là. Naturalmente, tu parti dalle istituzioni, sotto le istituzioni ci sono tutte le corporazioni che protestano e si difendono, i magistrati, gli avvocati, gli atti burocratici, i consiglieri parlamentari, i giornalisti morti, no? Non solo quelli dai, ma anche quelli che vogliono una legge liberticida contro la libertà di esercitare la professione, ok? Poi ci sta il PRA, poi ci sta l'Automobile Club, le camere di commercio. Ma ho capito, ma che ci siano le resistenze, no, ma che ci siano le resistenze, sì. Dall'alto ci voglia, e che Renzi ce la stia mettendo, è importante. Poi la ripresa deve arrivare, ma è chiaro, se questo insieme di misure. No, ma diciamo, questa frase di Renzi sicuramente cosa, sì. Voglio sì. dire un'ultima cosa su questo punto, perché è importante, però attenzione, le polemiche sul piano economico, facciamole nella maniera giusta. A me piacerebbe, per esempio, criticare Renzi perché ha privatizzato, anzi io critico Renzi perché ha privatizzato il 49% delle Poste e non il 51%, è chiaro? A me piacerebbe che Renzi fosse criticato perché continua a prorogare la cassa integrazione in deroga. Oppure non per il contrario, non perché non si trovano i soldi. Oppure perché non toglie, ho sentito la notizia da voi prima, perché fottendosene dell'Europa non toglie l'IVA al 22% dell'ebook. A me quello piace, su quello piace criticare Renzi. Cioè di essere ancora più propositivo, ancora più liberale. Quando lui blocca invece la finta riforma dei beni culturali di Franceschini, che lascia intatti i poteri delle sovrintendenze, io brindo a Renzi, brindo, gli faccio un peana. Però su questa cosa dell'economia, effettivamente, Padellaro, a parte questa frase infelice che, insomma, dice anche Velardi, è stata un po' propaganda, la questione della crescita, che sia di qualsiasi percentuale, questo non incide sulla vita degli italiani. Però l'altra frase con la quale io ho iniziato, detta Friedman da parte di Renzi, è: si parte dal Senato per dire che poi ci vuole anche fisco, burocrazia, ma se non si parte da lì non si dà il segno e non si dà il senso che le cose possano davvero cambiare. Può piacere come lettura, le può piacere? Allora, mi piace tutto quello che certamente aiuta questo paese, diciamola a me non... Però ecco, quando sento Velardi dire, per carità, elencare tutti, come dire, i lacci e i lacciuoli che purtroppo ci sono, io devo dire, sai Velardi, si chiama democrazia, non è che in Inghilterra, in Francia non ci siano le corporazioni, non ci siano anche interessi che vengono difesi, no, fammi scusa, volevo completare. Cioè possiamo fare una cosa, possiamo chiedere a Renzi di sospendere, diciamo, la Costituzione per 6 mesi e di fare le famose riforme. Ma io credo che questo non lo voglia nessuno. Io ho l'impressione che però Renzi... scusami, pensi dei consiglieri parlamentari che ieri hanno fatto la protesta. No, ma questo ne parliamo alle 9. Aspetta, Velardi, ne parliamo alle 9 di questa cosa. Volevo dire una cosa. Molto semplice, io penso che Renzi, che è giovane, brillante, a me piace personalmente, si sia montato la testa col famoso 40,08-09% degli europei. In che senso? Nel senso che lui pensa che la sua popolarità sia dovuta a quello che lui ha fatto, no, quel 40,09 è legato a quello che lui riuscirà a fare. Cioè una cambiale in bianco che gli è stata data dagli italiani. Ora, Io penso che basta guardare un po' i sondaggi, che non sono favorevolissimi più come qualche settimana fa. Se lui continua a forzare la situazione, vedi Senato, e non porta a casa che, no, casini, tensioni, problemi, non è che non va bene. Ma guardi, che Renzi lo sa, secondo me Renzi lo sa questa cosa. No. Infatti ieri cosa ha detto? Anche chi non mi reputa simpatico mi vota perché pensa che io sia l'ultima speranza. Ma fino a quando gli italiani sono purtroppo volubili e hanno bisogno anche di cose reali. Volevo dire questo. Renzi deve, se fa il primo ministro, fa il premier, deve anche capire che questa storia del si fa come diciamo noi non va bene. Lui adesso si è incasinato nel Senato, nella storia del Senato, certamente anche scontando questi emendamenti del così fasulli, perché non ha la capacità che penso che Velardi sia d'accordo su questo, un primo ministro deve avere di includere, discutere. Ma lui è abbastanza un decisionista. È abbastanza un decisionista. Se il decisionista perde e non porta a casa il risultato, lo fa a casa sua. Ma chiaro, ma qui è una discussione, ma riprendiamo tra un attimo dopo la pubblicità. Se il metodo per cambiare l'Italia sia un metodo un po' come penso la penserà Velardi, di dire basta, cioè questi lacci, lacciuoli, insomma bisogna a un certo punto dire prendere e fare e dire, o se invece il metodo deve essere sempre quello della discussione, della concertazione, e che per carità non è che in mezzo a questi due estremi ci sia la dittatura, no, però in mezzo a questi due estremi c'è il turbo renzismo, a dire ora mo basta, ci hanno votato, abbiamo la responsabilità di fare delle cose, di assumercene la responsabilità. Dopo la pubblicità però. 24 mattino. Siamo qui con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, con Claudio Velardi, parliamo di Renzi, il renzismo, le riforme da fare. Vorrei sentire anche due ascoltatori. Antonio da Napoli, buongiorno Antonio. Antonio, ci sente? No, andiamo a Lorenzo dalla provincia di Cuneo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io volevo dire al signor Padellaro e a tutti i giornalisti e i politici che ci ascoltano, sì, che l'Italia ha affrontato questo voto a Renzi perché non ne può più di sentire 20 anni, 30 anni di dibattiti inconcludenti, di vedere risorse che continuano a essere sperperate in una maniera vergognosa. Quindi, secondo me, se non si mette la mano rapidamente a modifiche anche costituzionali che potranno essere sbagliate, ma in quanto tali potranno essere riprese, sì, e quindi modificate, sarebbe opportuno pensare che forse il popolo italiano sta addirittura pensando realmente di vedere in modo benevolo un dittatore vero. L'abbiamo già visto, Lorenzo, non è andato benissimo. Lo so che l'abbiamo già visto, però dai, purtroppo vedere 30 anni dove le modifiche non si fanno mai. Cioè qui non se ne può più. Sì, vabbè, allora posso capire la parte in cui lei è sfiduciato a dire insomma la questione invece ci vorrebbe il dittatore, spesso si dice, ma insomma non è andata benissimo e i corsi e ricorsi della storia lasciamoli stare. Abbiamo recuperato Antonio da Napoli. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Io credo che in effetti Renzi debba comandare molto di più, perché in Italia vogliono tutti comandare, ma lei sa che in un'impresa uno deve comandare, poi il resto devono accettare, nel buono e nella cattiva sorte. Sì, abbiamo anche visto anche questo, cioè l'Italia governata come un'impresa. No? Se noi parliamo tutti e creiamo ognuno di noi un problema, non si risolverà mai niente, mai niente. Quindi deve governare di più, comandare ancora più col polso. Gli italiani devono tenere una persona nella democrazia che però deve avere la forza e il posto di comandare e fare avanti e andare avanti nelle cose che vuole fare. Grazie. E poi sbagli è normale. E poi se si sbaglia si vota e poi se la gente pensa che abbia sbagliato non lo eleggerà più. Grazie Antonio, questo è il suo parere. Allora, siccome devo liberare Antonio Padellaro, mette Claudio Velardi, rimane con noi anche perché tra poco ci aggiunge un altro ospite, un interessante sindaco che ha litigato con Renzi. Padellaro, però, nel lasciarla, sa che Calderoli, che è uno che se ne intende di tecniche tecnicalismi parlamentari, dice oggi a Repubblica andrà tutto in vacca e l'8 non si voterà nulla. Che ne pensa? Che succede? Ma non lo so, Calderoli certamente ha esperienza di queste cose, penso che veda quello che vediamo noi, cioè veda una specie di grande caos da cui non si capisce bene cosa verrà fuori, perché Renzi nel suo turbo essere, sta creando situazioni che ho l'impressione non riesca a gestire. Quindi a me devo dire sostanzialmente è ingiusto che non si facciano le riforme, perché sono d'accordo, troppi interessi incrociati, però un politico di razza deve, lo dicevamo prima, deve avere la capacità non di perdere tempo ma di evitare il caos. Allora, se alla fine di tutta questa storia vedremo che non si riuscirà a raggiungere il risultato l'8 agosto, poi non si capisce bene perché bisogna farlo per forza entro l'8 agosto, no? Ce lo chiede l'Europa, non lo so, uno di questi slogan che ogni tanto sentiamo dire. Cioè, la gestione della politica non è una cosa che si fa a colpi di decreto, sì, o mandando la brava e simpatica ministra Boschi a dire vi quando c'era Fanfani. Queste sono cose che fanno un po' ridere. Bisogna avere la capacità di parlare con tutti e di dire a un certo punto basta, da questo momento in poi cerchiamo di trovare una soluzione comune, e si può trovare, per fare una riforma del Senato che non sia quella schifezza che stiamo facendo. Noi staremo a vedere poi che succederà. Intanto ringrazio Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Grazie. E faccio sentire a Claudio Velardi Paola Taverna, che tra l'altro racconta a Repubblica ieri in quella che Velardi definisce la gita scolastica al Quirinale, di fronte al carabiniere che le si è parato davanti dicendo qui non si può passare, dice signora, io non sono una signora, sono una senatrice. Andasse a parlare con chi l'ha portato ad essere la maggioranza alla Camera dei Deputati. Con la legge che ha permesso le coalizioni, la stessa legge elettorale che vogliono riproporre e che noi vogliamo modificare. Signore, posso dire una parola un po' forte? Questa gente fa schifo. Eccolo lì, Velardi, fa schifo questa gente. Questo succede quando si manda un movimento senza storia, senza profilo, gli si dà un sacco di voti, ma perché? Non per colpa loro, povera Taverna. Loro stanno lì perché quegli altri si sono dimostrati incapaci. E adesso il problema di Renzi, uno dei grandi problemi di Renzi, è di cercare di assorbire questa spinta che porta le Taverne in Parlamento, cercando di rimettere in piedi un sistema che funzioni. E anche per questo va dato una mano al giovane. Io volevo fare una proposta, vabbè, ma Antonio se n'è andato, poi magari gliela trasmetti tu. Va bene. Perché lui dice cose molto ragionevoli, bisogna mediare, dialogare, eccetera. Io proporrei di fare Padellaro, di fare da mediatore ufficiale sulla faccenda dell'accorpamento della motorizzazione civile, dell'automobile club e del pubblico registro automobilistico. Vuoi fargli passare dei brutti sei mesi? È stata una decisione presa un sacco di mesi fa e che non si fa. Perché ci sono degli italiani, perché poi purtroppo il discorso riguarda anche tanti italiani, che questa non la vogliono. Allora prendiamo atto che stanno lì. Allora Claudio Velardi, faccia lì la mediazione. Allora prendiamo atto. A un certo punto bisogna decidere. Va bene, allora prendiamo atto, come ci ha detto ieri Alberto Forchielli qui, che il problema non è l'Italia, non è Renzi il problema dell'Italia, ma sono gli italiani. E allora prendiamone atto. In una certa misura è vero, però guardi, basta. Mi confortano, posso dire un'ultima cosa, quelle belle parole che ha usato ieri De Rita sul Corriere della Sera, la vita si cura con la vita, le riprende anche Ferrara stamattina. Il problema è che bisogna tornare a dare fiducia nel futuro agli italiani, e questo è il vero problema, perché sotto l'Italia sa che deve cambiare, ma ha bisogno di ricevere questo slancio dall'alto. Chi è che dall'alto fa questo mestiere? Lo fa Renzi. Chi è che non lo fa? Rispondi tu. I giornali, la maledetta stampa, che invece non fa altro che soffiare sul fuoco delle polemiche interne alla casta. Eccolo là, i giornali morti, i giornalisti morti. Vabbè, questo è Claudio Velardi. Sentiamo Piero da Firenze. Piero, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Scusate, Renzi, allora, voi non lo conoscete, io da fiorentino me lo sono sciucciato come presidente della provincia e come sindaco della città. Quando era presidente della provincia, lui ha detto faccio il tratto della Fipili, e lui ha fatto il tratto della Fipili tenendo tutti i toscani in coda per un anno e mezzo. Chi è la FIPI lì? Firenze, Pisa, Livorno, immagino. E lui l'ha voluta fare e l'ha fatta nei termini in cui la voleva fare, vale a dire in un tratto intero, non a tratti. Lui si è fatto 20 chilometri di FIPI e per 20 chilometri ci ha tenuto per un anno e mezzo su mezza Orsia. Come sindaco di Firenze ha detto, per la sua ambizione, io il 20 di dicembre pedonalizzo la città. E lui il 20 di dicembre era nelle sue poteri, perché era ha pedonalizzato lui la città. Ha pedonalizzato, però senza che nessuno fosse pronto nelle linee. Però scusi Piero, mi perdoni, ma questo non sto dando un giudizio, non è se non altro a dire, per un politico faccio una cosa e la mantiene, poi sa, c'è questa piccolezza della democrazia, per cui se a uno non piace più questo questa scadenziario e questo rispetto di tempi, questo modo di fare, non lo vota più, no? Piero, non, cioè, no, un politico che dice faccio una cosa entro quella data e la fa, insomma, di per sé non è una cosa negativa, no? Dovrebbe essere il senso della politica. Poi lei dice sì, ma la fa e la fa male e non lo voti. Lo so, ma questo, quando uno amministra dei cittadini, deve pensare anche ai problemi che arreca i cittadini. Noi è 4 anni dalla pedonalizzazione che la gente entra alla stazione e non ha la possibilità di uscirne, perché lui la pedonalizzazione l'ha fatta. C'è gente che gira in stazione da anni. Però non ha previsto niente. E a questo punto qui noi ci ciucciamo, lui si è preso la gloria e noi ci ciucciamo i problemi. Va è bene. Troppo facile fare politica in questa maniera. Piero, la ringrazio. Era il caso di perdere il tempo per il Senato in un momento in cui siamo tragicamente alle strette? No, l'abbiamo detto che con la riforma del Senato nessuno avrà, mangerà o abbiamo stroncato la disoccupazione o abbiamo pagato i debiti alle imprese o abbiamo rilanciato l'economia. Però è anche la riforma del Senato importante. Comunque dopo il traffico rientriamo. Allora, alle 8:48 minuti, anche Giorgio da Rimini vorrei sentire. Giorgio, buongiorno. Giorgio, ci sente? Pronto. Eccoci. Pronto? Buongiorno. Sì, ci sente, benissimo. Pronto? Pronto. No. È qua, noi la sentiamo benissimo, Giorgio, che dobbiamo fare? Lei non ci sente? No, è caduta la linea, ma noi la sentiamo benissimo. Vabbè, lo recuperiamo. Allora, con Claudio Velardi, voglio salutare Velardi, voglio presentarti un sindaco. Fantastico. Oh, fantastico. Un sindaco che è Camilla Gritti di Castelcovati, in provincia di Brescia, della Lega, giusto, sindaco? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è diventata celebre perché quando è venuto Renzi a presentare Brebemi, si è parata davanti a Renzi, a quel punto ha messo le braccia conserte e l'ha ascoltata con grande attenzione, ma lei gliene ha dette 4, tipo quelle che sentiamo. 2.000 disoccupati su 6.700 abitanti. Come mai? Che è successo? L'edilizia. Io ho creato posti di lavoro, dal governo non ho ancora visto niente. Come io personalmente. Come sei messa tu? Come, io come ho i soldi, gli avete dato 68.000 euro per le scuole, non me ne faccio niente. Quando io ho la disponibilità. Cioè, ascolta. Sì, ma poi entro. Mi avete dato 68.000 euro per le scuole, non me ne faccio niente. Sindaco, e Renzi che gli ha detto ridacceli. Non me ne faccio niente perché se non posso uscire dal patto di stabilità, come faccio a spenderli? Oltretutto li devo entro ottobre, io devo assegnare i lavori, com'è che faccio? Se non, oltretutto mi hanno dato 68.000 euro per le scuole, ma non mi hanno detto se è per il progetto della scuola elementare o per la scuola media. Questo non sarà un grande problema, cioè quando lo scoprirà li destinerà. Ho capito, ma io li devo assegnare entro il 30 ottobre. Ottobre, oggi è fine luglio, poi cioè lei chiede, quindi lei, a lei andrebbe bene se ci fosse una possibilità di sforare il patto di stabilità in modo da poter... Io ho già un progetto di 1.2 milioni già pronto e finanziato con i miei soldi, ma non lo posso fare perché non posso il patto di stabilità. Ma non le piace e questi soldi qui, 68.000 euro, se io potessi utilizzarli come spesa corrente, ma chiaramente li utilizzo per i miei disoccupati. privati, ma li posso utilizzare solo per investimenti. Ma se non mi fanno uscire dal patto di stabilità non li posso comunque usare, cioè lei capisce che è quasi una presa in giro. Una presa in giro. Oltretutto il governo per la disoccupazione non ha ancora fatto nulla, nulla. Qualcosa ha fatto la regione, nonostante non abbia proprio, cioè non debba intervenire su queste cose, e la stessa cosa ha fatto la provincia, ma il governo non ha fatto niente. Ecco, non ha preso in carico di il questo problema. Stiamo proprio discutendo, sindaco, di questi mesi di renzismo. Vabbè, c'è da dire che Renzi l'ha accusata un po' di fare propaganda elettorale a un certo punto, ma di questa discussione. Ma io non sono in propaganda elettorale, perché io sono già stata rieletta e non potrò più essere rieletta. No, vabbè, ma nel senso, avendo l'opportunità magari di avere di fronte il Presidente del Consiglio Velardi, che c'è, che volevi dire? No, niente, che sì, c'è un po' di politica nelle posizioni del sindaco, e devo dire, insomma, questo è evidente, perché appunto fanno tutto bene le amministrazioni governate dalla Lega, fanno tutto male gli altri, intanto veda un po' come spendere questi 68.000 euro. Ma non può, dice, c'è il patto di stabilità. Ma non è così, perché se gliel'hanno dati per l'edilizia scolastica, ho capito bene, non sono lo posso spendere, non perché lo può io spendere. Ho già tutti i miei programmi. Ma che gli hanno dato, sindaco, 68.000 euro, ma così, e lei non li può, cioè effettivamente questi fondi non posso, adesso non bisognerebbe posso fare una discussione di merito, se uso i 68.000 euro non devo fare qualcos'altro. Va bene, Velardi, qua la questione questo, è chiaro che se con 68.000 euro si fanno delle cose e non se ne fanno altre, e se ne fa una ragione, caro sindaco, intanto faccia le cose che può fare con quei 68.000 euro che sono stanziati per l'edilizia scolastica, così come tutto sommato un bel po' di soldini stanno arrivando per questa ragione in tantissimi comuni italiani. È una cosetta, e vabbè, ma santi Dio. Oh ragazzi, qui stiamo parlando del bilancio di un governo che sta lì da 5 no, mesi. No, ma qui Velardi, la questione mesi, è che la sensazione che si è portato dietro Renzi è che ora vogliano mandrache. Proviamo a fare un altro giochino. Se ci vedevamo, ci sentivamo a 5 mesi dalla nascita del governo Letta, che avremmo fatto? Avremmo fatto una trasmissione muta. Saremmo stati zitti per 40 minuti. Che ha fatto Letta? Muti, 40 muti, minuti di silenzio. Ma ragazzi, che... noi stiamo parlando di tutte queste cose. Che impietoso, belle, che impietoso. Ma è un po' così, insomma. Però, sindaco Gritti, lei ha messo. Prima di tutto, quei soldi qui, oltretutto, sono quelli ancora stanziati da Letta, non sono soldi di Renzi. Sì, questo è sia vero. Ben chiaro. Sia vabbè, ben lei chiaro, vuole stroncare proprio. Le cose però, chiaro. Mi dica un po', sindaco, lei ha detto che il problema è l'edilizia. Due giorni fa sul Sole 24 Ore si raccontava l'edilizia, un comparto che è sceso ai livelli del 1967, è un disastro, ma questo è un disastro per una congiuntura economica, per leggi, per... Allora, le spiego, io purtroppo questi, l'edilizia è uno dei settori anni... più colpiti, ecco, esatto. Questo io è così. Io in questi anni ho analizzato molto bene il problema, perché è dal 2008 che io mi interesso di questa cosa, ho fatto riunioni, convegni, ho cercato di fare tutto il possibile per i miei cittadini. La crisi, cioè, in parte è dovuto alla crisi edilizia, è vero, la crisi edilizia è dovuta al fatto che ci sono troppe costruzioni, poi ci sono ditte con sede in Romania e in paesi extracomunitari. Cioè, Albania eccetera, che lavorano senza controlli assoluti. Perché lei a un certo punto gliel'ha detto a Renzi anche. Con i loro concittadini. Poi l'utilizzo sia di ditte italiane che di ditte che hanno sede in Italia, sì, ma di extracomunitari, di operai che vengono utilizzati sindaco, che l'ex sindaco Renzi si è arrabbiato un po' a dire, allora, ma lei sta facendo propaganda politica, le ha detto. Renzi gliel'ha detto, non è vero che è propaganda politica. Io difendo anche i miei cittadini, abitanti a Castelcovallo, extracomunitari, se vengono utilizzati come bestie. Le spiego perché. Perché apparentemente hanno una busta paga regolare. Però poi cosa succede? I datori di lavoro, sia italiani che stranieri, si fanno ridare in una parte di questi di questa busta paga. Sì. In nero, e così viene creato il nero. No, ma è chiaro, ma questo è sbagliato. Fatemi sentire però Demis da Lecco, mi ci ha chiamato e leggo dalla redazione, mi dice che mi hanno detto che lei collabora con parlamentari del Movimento 5 Stelle, è vero, è così? Sì, messaggio, perché noi utilizziamo le tecnologie, invitiamo i senatori in videoconferenze, discutiamo delle problematiche, sì, trasportiamo le nostre informazioni tecniche, perché siamo molti, all'interno del movimento molti professionisti anche, sì, di alto livello. E volevo dire al signor Vela, perciò vuol dire che il cittadino comune parla con i nostri parlamentari portavoce e applicano nelle commissioni, sì, i lavori. Ok, sì. Io vorrei dire al signor Velardi, che mi ha fatto veramente arrabbiare, sì, ha sminuito la senatrice, che si volevo ricordare che il signor Renzi è stato invitato a una cena di Telecom Italia a Roma. All'interno di questa cena c'erano tutti i poteri forti dell'Italia. Ma cosa c'entra? E lì certamente, no, le spiego, ai tempi Renzi è stato invitato a questa cena, sì, di cui gli hanno dato questi poteri di fare tutto quello che vuole. Renzi sta violentando le regole della Costituzione, non si può usare la tagliola per imporre, per modificare la Costituzione. Allora, su questo però, se si può fare ostruzionismo, perché non si possono mettere in piedi forme uguali e contrarie per bloccare l'ostruzionismo? Questa è una domanda. Però Claudio Velardi qui vuole il tempo. Mi pare di chiedere, il signore che sta parlando è uno di quelli che crede alle scie chimiche, a sta roba qua, ai club Bilderberg, vabbè, niente, insomma. No, vabbè, adesso così volte si attira ulteriori critiche. Velardi, anche Velardi come Calderoli, no, butta in bacca dalle questa cose che ha detto, dalle vabbè, cose che ha detto, no, sì, pare, anch'io non ho capito il nesso con un conto è dire i parlamentari del Movimento 5 Stelle parlano col popolo, con la gente, e fino a qui posso seguire, però invece sì, Renzi si chiude con i poteri forti a Telecom, a una cena di Telecom Italia. Adesso altri 5 minuti e arriviamo alle scie chimiche. No, ecco, allora fermiamoci qua. Io ringrazio Claudio Velardi, grazie anche al sindaco Camilla Gritti, sindaco della Lega di Castelcovati in provincia di Brescia. E che dire, arriviamo fino alle 9:30, quindi dopo il giornale radio parleremo di questa rivolta dei dipendenti della Camera contro i tagli agli stipendi dei parlamentari. Per chi di solito segue 24 mattino fino alle 9, dico che vado in ferie oggi, poi alle 9:30, ci rivedremo a settembre, ma intanto stiamo qui fino alle 9:30. 24 mattino. Alle 9:07, eccoci qua, siamo in onda fino alle 9:30. Ora, per introdurre l'argomento di cui vogliamo parlare, sul quale vogliamo tornare a parlare, devo raccontare un episodio personale che non potete conoscere. L'altro giorno ero qui in redazione, mercoledì, ricevo una chiamata dal centralino del Sole 24 Ore, mi dico, le devo passare una persona che chiede di lei, me la passi. Non dirò il nome per una questione di privacy. Questa persona si qualifica come un ex dipendente della Camera, attualmente in pensione, e mi racconta di come si è rimasto disgustato, ha usato proprio questo aggettivo, del tema che abbiamo affrontato lunedì scorso con il questore della Camera Stefano D'Ambruoso e con Diodato Pirone, giornalista del Messaggero, che è con noi anche oggi. Diodato, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Mi ha raccontato che insomma voi non capite quanto siamo qualificati alla Camera, quanto lavoriamo, anche 18 ore al giorno senza turni. Mi ha detto che ha due figlie che non trovano lavoro, e questo mi dispiace, ma non c'entra col tema di cui stiamo parlando. Mi ha detto che c'è del qualunquismo, della demagogia, ma voi non sapete quanto siamo vessati, quanto lavoriamo. Si discuteva del tetto da 240.000 euro da porre anche alla Camera. A un certo punto mi ha detto: anche quel barbiere, vi lamentate, quel barbiere che guadagna 130.000 euro a fine carriera, ma voi non sapete quanto lavora quel barbiere, anche 14 ore al giorno. Gli ho detto: mi scusi, ma anche ci sono barbieri che lavorano 14 ore al giorno e magari fanno fatica a pagare le tasse, e vincessero il concorso alla Camera. Mi ha risposto così Diodato Pirone: vincessero il concorso alla Camera anche quei barbieri, se sono in grado. E poi la conversazione, ma gentile, un po' brusca nei toni, ma comunque era sfiduciato, ha messo giù così, ma insomma ci siamo salutati abbastanza cordialmente. Allora parliamo e torniamo a parlare di questa vicenda, perché ieri, come tu Diodato hai raccontato anche oggi sul Messaggero, è successo un qualcosa che non ha precedenti: i dipendenti della Camera che hanno protestato anche rumorosamente, non ci sono audio ovviamente perché non c'erano telecamere a vedere, per quella che è stata la riunione della presidenza della Camera, nella quale si discuteva di porre questo tetto da 240.000 euro anche ai dipendenti della Camera. Saluto per questo, ritorna con noi la vicepresidente della Camera, onorevole Marina Sereni del Partito Democratico, che guida il comitato per gli affari del personale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei è stata bersagliata come altri da questi, ma è vero che sono stati toni irrisori? Bravi, continuate così e voi non vi tagliate gli stipendi invece. Come giudica questa reazione, umanamente comprensibile oppure no? Ma guardi, tutte le reazioni hanno sempre un fondo di possibile comprensione umana. Dal punto di vista politico la giudico un po' sopra le righe, nel senso che ieri era l'avvio di una decisione, perché l'ufficio di presidenza ha approvato degli indirizzi, nel pomeriggio abbiamo avviato il negoziato con le organizzazioni sindacali. Se non si entra nel merito della proposta avanzata dall'ufficio di presidenza, difficilmente anche potranno far valere le loro ragioni, perché io non escludo che ci possano essere delle ragioni sì. che dovremmo ascoltare, non è questo il modo, però insomma prendo atto che c'è un dissenso, siamo al calcio d'inizio di una partita complicata e l'affronteremo. L'affronterete, sì, perché ma l'hanno un po' stupita, anche perché sono persone con le quali poi lavorate quotidianamente, no? Persone che poi vi ritrovate a fianco sugli scranni, che vi devono aiutare a compilare le leggi, e per cui non è facile lavorare con persone. Facile. Questo è anche forse all'origine di una distorsione che si è creata nel tempo, perché voglio premettere che questi stipendi molto elevati, molto diversi dal resto della pubblica amministrazione, i dipendenti di Camera e Senato non se li sono autoassegnati. È chiaro che c'è stato un processo nel corso del tempo che è stato guidato dalla politica e da un rapporto forse diciamo un po' troppo intrecciato tra la burocrazia e la politica. Oggi noi siamo di fronte alla necessità di fare un'inversione di tendenza. Stessa responsabilità e autonomia dobbiamo dimostrare che abbiamo voglia di cambiare. Diodato Pirone, tu hai raccontato sul Messaggero come effettivamente ha un po' stupito nei solitamente silenziosi corridoi del palazzo fuori dall'ufficio di presidenza. Ieri è stata inscenata questa protesta un po' estemporanea, un po' chiassosa, no? L'onorevole Sereni è in una posizione per la quale non deve scaldare gli animi, anzi deve, come dice lei giustamente, entrare nel merito delle questioni. Però ieri io trovo che sia successa una cosa gravissima, perché noi strapaghiamo questa elite burocratica qualificatissima perché sia neutrale nei confronti della politica, no? Ma se tocchi lo stipendio, sai che la neutralità poi... Ho capito, ma allora non devono essere strapagati. Se non sono neutrali, cosa vincono a fare in un concorso che li obbliga ad essere neutrali? Loro hanno toccato ieri un punto assolutamente strategico. Si sono permessi di protestare in Parlamento perché possono entrare in Parlamento, perché sono super privilegiati. Nessun'altra categoria al mondo, se non i politici, può fare questo. Io lo trovo un atto profondamente scorretto, che denota anche una mentalità. Loro stanno in una situazione talmente privilegiata che non si rendono più neanche conto del loro ruolo istituzionale a questo punto. Tra l'altro vogliamo partire da qui e ripartire da quello che ci ha detto il questore D'Ambruoso, perché qui onorevole Sereni ci deve aiutare a capire. Quando lunedì scorso abbiamo parlato con il questore D'Ambruoso, gli abbiamo fatto, io e Diodato Pirone, una domanda ben precisa, cioè questa: riusciremo davvero a porre questo tetto da 240.000 euro? Ascoltiamo la risposta del questore. Credo di doverla deludere, nel senso che quel tetto renziano dei 240.000 euro, su quale io credo, fortemente credo, proprio perché per non creare due distinti regimi all'interno della pubblica amministrazione, per quanto siano bravissimi i funzionari della Camera o i dipendenti della Camera, ma credo che quel tetto difficilmente sarà letteralmente applicato anche alla Camera. Allora, ecco, onorevole Sereni, difficilmente sarà letteralmente applicato anche alla Camera. Non so se era pessimismo, se ieri ci sono spiragli di ottimismo. Ci aiuti a capire, insomma, perché sì, gli italiani vogliono sapere. La materia è sempre un po' tecnica, quindi io provo a renderla comprensibile agli umani, così, avendo fatto una fatica io prima a capirla. Noi non siamo ovviamente obbligati ad applicare la legge, perché la legge non riguarda gli organi costituzionali, eppure l'abbiamo fatta noi quella legge, quindi il punto di ripartenza, tutto politico, da cui Camera e Senato sono partiti, è come facciamo a far finta di nulla di fronte al fatto che noi legislatori abbiamo recentemente introdotto quella norma per la generalità della pubblica amministrazione, abbiamo preso quei principi e li abbiamo cercati di tradurre guardando alle nostre due amministrazioni, che hanno alcune caratteristiche peculiari, oltre quelle buone, positive che sono state ricordate e che diciamo speriamo di non intaccare, la particolare disponibilità, l'imparzialità, la neutralità e la preparazione dei nostri dipendenti. Però c'è due dati. Il primo, gli stipendi alti non riguardano solo la cosiddetta dirigenza, che da noi non esiste, cioè i consiglieri, no? Tutte le categorie che lavorano alla Camera, se parametrate con il resto della pubblica amministrazione esterna, dove hanno degli stipendi molto elevati. Chiaro. Quindi il tetto non può essere uno solo, ma deve riguardare tutte le categorie. Abbiamo scelto un tetto per i consiglieri e poi dovremo, perché non ci sono i numeri nel documento che abbiamo applicato ieri, c'è solo quello che riguarda anche gli altri. Parametrare anche interessante questo, è quindi non solo il tetto di 240.000, ma vorreste anche riparametrare verso il basso, verso il basso. Per forza, perché altrimenti diciamo la piramide, che è già abbastanza schiacciata, no? Perché anche le categorie più basse, a volte diciamo si fa molto parlare dei barbieri, gli assistenti parlamentari, cioè, però diciamo adesso senza voler appunto eccedere nel voyeurismo, ci sono degli stipendi indubbiamente più alti che nel resto, ecco, della ma si riuscirà, cioè è chiaro che la domanda si riuscirà, è una domanda, lei dice ma come, mi sto per sedere a una trattativa sindacale con 25 sigle e voi mi chiedete se ci sarà. Riusciremo o no, vediamo, però adesso finisco sulla seconda particolarità. Noi partiamo da degli stipendi decisamente più alti. Allora, quello che credo intendesse il collega D'Ambrosio è questo: noi abbiamo preso a riferimento i principi della legge dello Stato, del decreto legge 66/2014, e li abbiamo adattati alla struttura degli stipendi della Camera e del Senato. Per quanto riguarda il tetto massimo, lo dico subito perché sta sulle carte, se no non lo capiamo, non è un tetto di 240 secco, perché è 240 al netto degli oneri previdenziali, quindi è leggermente più alto, alto di quello che è stato quello che fa titolare oggi da Libero, forse in maniera un po' generosa, sono un tetto farsa. Sì, appunto, poi dopo io li vorrei venire a vedere, vedere difendere l'operazione. Esatto, però, dico, ecco. Franco Bechis, che scrive su Libero, faccia lui la trattativa sindacale, lo dico io per lei. Però fatemi salutare Edmondo Cirielli, buongiorno. Deputato, lei che siede nell'ufficio di presidenza di Montecitorio e che mi risulta abbia votato no a questo, l'unico, è vero che è l'unico che era contrario? No, guardi, purtroppo nell'ufficio di presidenza non c'è trasparenza, perché io ho votato no al metodo, chiarito che ero contrario al fatto che non si discutesse con i dipendenti, e le dico di più, non solo sono favorevole io a cambiare questi stipendi, ma anche i dipendenti lo erano. Questo addirittura, perché hanno fatto questa protesta, però hanno fatto una protesta perché se non si rispettano le leggi dello Stato, quando accampando il diritto a applicare le leggi dello Stato, io penso che se si cambiano degli stipendi, se si cambiano dei contratti, si chiamano i lavoratori e si parla con loro. Ma adesso non ci sarà, mi scusi onorevole, ho capito però da Maria Sereni che adesso ci sarà la trattativa sindacale, ci si siederà al tavolo, questa è la bozza di partenza dalla quale poi questo diciamo è un cambiamento unilaterale dei parametri legati alla contrattazione. Il codice civile, così come lo statuto dei lavoratori, prevede che quando fai una cosa del genere la puoi fare, però ti devi sedere a tavolo con i dipendenti, cosa che non è stata fatta. Peraltro i dipendenti sono assolutamente concordi nel fatto che bisogna cambiare questi stipendi. Peraltro gli stipendi non se li sono dati i dipendenti, gliel'hanno dati la DC e il PC, e Forza Italia, però, ho capito, ma però adesso bisogna cambiarle, loro sono d'accordo. Ma invece si fa un'operazione mediatica come se loro fossero stati scoperti a rubare e li si vuole punire, perciò protestano. Nessuno dice che rubano, nessuno dice che rubano. Però guarda, si legga i giornali, sembra che il tema sono stati questi lavoratori, non so, che chiediamolo, hanno approfittato. Chiediamolo a Diodato Pirone del Messaggero. Diodato, hai un atteggiamento, e comunque hai letto sulla stampa un atteggiamento un po' punitivo, comunque a dire, ma insomma basta anche questi dipendenti della Camera, casta delle caste, e quindi Cirielli allora, dice bisogna difendere il metodo. Allora, è chiaro che nel paese tira quest'aria. Devo dire che anche nella trasmissione che abbiamo fatto noi l'altro giorno, questo atteggiamento punitivo io francamente non l'ho visto. E anche nelle settimane scorse, nelle settimane durante le quali è maturato questo la decisione di ridurre gli stipendi, devo dire che ci sono state molte discussioni. Alla Camera non era certo un segreto che si stesse lavorando a questo progetto, ci sono stati vari contatti, penso che l'onorevole Sereni potrà dettagliarli, appunto nel CAP e tra i parlamentari destinati. Dedicati a questa operazione e i sindacati. Diciamo, questa vicenda è una classica vicenda all'italiana, chiagni e fotti, cioè tutti si lamentano quando sono toccati da qualche cosa. Sì, sì. Devo dire che l'intera operazione è fatta col bisturi. Ci sono intanto quelli che sono fuori dai tetti, perderanno una parte del loro stipendio. E come abbiamo detto il tetto è parziale, è più alto rispetto agli altri. Sì. Mi pare di capire in 3 anni, cioè queste attenzioni non sono state sì, diciamo, non è che si interviene con l'accetta a dire da domani vi togliamo, agli altri non è stato a questo trattamento di favore, agli altri dipendenti pubblici non è stato fatto. Agli italiani poi ancor meno agli italiani. Fatemi sentire 2 ascoltatori, poi torno dall'onorevole Sereni. Mario dalla provincia di Bari. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Io lavoro nel settore spaziale, sono un direttore tecnico di un'azienda privata che ha sottocontratti o contratti diretti dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, dall'Agenzia sì. Spaziale Europea, ESA, e dalla NASA. Mm. Io ho un ricavo netto, lordo, di 40.000 euro l'anno. Sì. Nel mio settore non si lavora 8 ore, non è possibile lavorare nemmeno 18 ore. Sì. Quando si lancia un satellite, costo totale non meno di 1 miliardo di euro, la responsabilità sui vari componenti è distribuita su diverse persone, ma tutte partecipano per lanciare un satellite. Vabbè. Che costa 1 miliardo di euro. Quindi lei dice, Mario, mettendo questo suo stipendio alla disposizione nostra e del pubblico, a dire che le dà un po' fastidio sentire che le si discute di queste cifre? Le faccio un esempio. Terremoto dell'Aquila, sono stato io il responsabile subito quella notte nell'acquisire tutte le immagini che la Protezione Civile ha utilizzato per fare tutte le stime. Quella era la Settimana Santa. Io ho lavorato per 2 settimane, compresa Pasquetta. A 40.000, insomma, le dà fastidio l'idea di sentir dire lavoriamo 15 ore, 20 ore, però effettivamente hanno vinto un concorso, sono qualificati, ma questo nessuno l'ha mai messo in dubbio. La ringrazio, Mario, per questa testimonianza. Vorrei andare dalla provincia di Salerno, da Armando. Buongiorno, Armando. Buongiorno. Senta, io volevo semplicemente urlare la mia rabbia contro questi colleghi, tra virgolette, dipendenti pubblici, ma per un semplice motivo, perché sono dipendenti pubblici sui generis. I dipendenti della Camera fanno un contratto col Presidente della Camera, i dipendenti del Senato fanno un contratto col Presidente del Senato, i dipendenti della Quirinale fanno un contratto con la Presidente. Sono organi costituzionali e lavorano per loro. Ma sono dipendenti pubblici, ma stiamo scherzando? Un commesso alla Camera che prende dopo 30 anni di servizio 60-70 mila euro, e noi quando li vediamo? Io sono un funzionario del Ministero dell'Interno, neanche un quarto di quello che prendono questi signori prendono. Altro che 7, 8, 9, 10 e 12 ore al giorno, ne vorrei lavorare pure io 12 al giorno, e datemi pure a me se siete. Però insomma, hanno vinto il concorso alla Camera. Chi è che dice no? Ma è chiaro, anche lei ha vinto un concorso, voglio dire. Però non la metterei su questo piano, cioè loro hanno vinto un concorso alla Camera e quindi prendono lo stipendio della Camera. Non è, però onorevole Sereni, lei capisce anche, e non lo vorrei ridurre a questo, a battaglia tra dipendenti pubblici, perché così poi facciamo, come dire, la battaglia tra poveri, intendetemi cosa voglio dire, poveri, nel senso che... Ma guardi, io posso dire 2 cose. Sì. La prima è questa. lo dico per correggere l'onorevole Cirielli, è legittimo che lui abbia votato diversamente, ma il Comitato Affari per il Personale aveva acceduto a una richiesta di audizione preventiva dei sindacati, li abbiamo convocati il giorno prima della decisione, hanno deciso di non presentarsi perché avevano chiesto di essere auditi non dal CAP ma dall'ufficio di presidenza, cosa che nella procedura non è prevista perché l'ufficio di presidenza... Quindi lei dice le procedure le abbiamo rispettate. Non solo le abbiamo rispettate, abbiamo dimostrato una disponibilità anche ad ascoltarli preventivamente. Secondo, in ogni caso adesso è iniziata la trattativa e io dico questo, se la trattativa si farà e se c'è una disponibilità a costruire un accordo, sia io che la Presidente Fedeli, che insieme a me sta condividendo questa, diciamo, questa riforma per il Senato, noi siamo disponibili a metterci intorno a un tavolo e anche a venire incontro ad alcune delle loro osservazioni. Insomma, vi accusano di essere stati invece renzianamente autoritari, come io l'accusa. Sono una renziana anziana, diciamo, facciamo così, sono una renziana anziana e quindi, come tutte le persone anziane, sono un po' più lenta del capostipite. Sono convinta che stiamo facendo una cosa giusta, anche nella gradualità giusta, un'azione di riforma tanto più necessaria di fronte al fatto che tra poco avremo comunque una riforma del Parlamento dal punto di vista costituzionale, quindi noi ci stiamo muovendo per avere un ruolo unico del personale del Parlamento, anche per dare una prospettiva a quella parte del personale che dovrà cambiare funzione, crescere, magari avere opportunità di carriera diversamente in un Parlamento riorganizzato, però ci rendiamo conto che quella roba lì è insostenibile. Onorevole Cirielli, capisco che quelli prima di loro sono stati più fortunati e lo capisco, però come dire, un punto zero si mette sempre. No, ma è chiaro. C'è un prima, è come quando si mette un concorso nel quale l'età minima è di 22 anni. Se uno ha 21 anni e 364 giorni non può partecipare, ma se uno non mette dei punti, delle regole, ci sarà sempre qualcuno che si sentirà escluso o si sentirà poco privilegiato rispetto a un altro. Onorevole Cirielli, non le sembra quindi di buon senso l'idea che si debba fare questa cosa? E dice: no, guarda, io mi sembrava di essere stato chiaro. Io penso assolutamente che bisognava fare questa cosa, e lo pensano anche i dipendenti. Voglio solo dire, il merito è anche che se parlano 20 persone per 3 ore, tutti che hanno la pensano alla stessa maniera, e io che voglio esprimere un'opinione diversa parlo un minuto, già le fa capire che in Italia c'è qualcosa che non funziona. Ma dai, siamo Ma glielo dico con chiarezza, perché oggi la campana suona per queste persone, domani toccherà i pensionati, poi altri, succederà come in Grecia. Il problema è che si può fare tutto. Ma scusi, onorevole Cirielli, ma quale campana? Stiamo riparametrando a 240.000 euro. Ma bisogna farlo con le regole. Ma dice che io non lo so, ma dice che è stato convocato e non so. Allora, il datore di lavoro e l'ufficio di presidenza avevano il diritto di essere ascoltati dall'ufficio di presidenza, era l'unica cosa che chiedevano. E mi sembra giusto. Io la penso esattamente nel merito come lei e come tu. Però il metodo non la penso solo io così, la pensavano anche i dipendenti. Solo non è che per fare bella figura sui giornali bisogna calpestare le regole. Questo è il punto. Le regole servono perché oggi magari si possono violare le regole per una cosa giusta. Domani, una volta che tu hai iniziato a violare le regole, passa il principio che si può, sempre chi comanda può fare come gli pare. Invece lo Stato di diritto prevede che ogni cosa si può fare, ma secondo nel rispetto delle regole che valgono per tutti. Fatemi sentire Salvatore da Cosenza che ci ha chiamato. Buongiorno Salvatore. È caduta la linea. È risalita. È risalita, dica. Volevo dire che c'è una norma che riguarda i dipendenti delle Camere, per cui se c'è un aumento di stipendio per i dipendenti in servizio, tale aumento si applica automaticamente al dipendente in pensione. Sì. Per questo motivo ha chiamato quel pensionato ieri. Sì. È una norma assurda che non esiste in nessun altro settore. Poi un'altra cosa, se il barbiere lavora 14 ore al giorno, con quella stessa cifra si pagano due barbieri e ne lavorano due per 7 ore al giorno. Ah, perfetto, Salvatore. Non so, forse è Cirielli che è caduto la linea o ha messo giù, non lo so, ma siamo qui a discutere, onorevole Cirielli. Ha avuto, sì, è vero, Diodato Pirone magari la pensa non come lei, così Marina Sereni, ma non è che siamo qui a contare, dai, con la clessidra se uno parla un secondo in più o no. Ha espresso compiutamente il suo pensiero, ma io mi devo fermare qui. Ringrazio Marina Sereni, ringrazio Raffaele Cirielli, ringrazio Edmondo Cirielli, sì, Edmondo Cirielli, onorevole di Fratelli d'Italia, ringrazio Diodato Pirone del Messaggero, per dire che mi fermo qui. Si va in vacanza allora. Niente, su Twitter però. No, ma dai. Su Twitter però ogni tanto twitterò Alino Milan nel mio profilo, se volete, non vi abbandono, perché si sa, no, si cazzeggia, ma si sta in vacanza, ma si scrive anche un tweet ogni tanto. Ringrazio Giorgio De Luca, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci risentiremo a settembre, ma da domani alle 9 il sabato, quindi dico vacanze per dire, da domani alle 9 ogni sabato alle 9 sono con Leonardo Manera per Platone, la caverna dell'informazione, il sabato alle 9, tutta l'estate, non dimenticatelo. Ciao. Che te pozzino via fuoco, ciao Milan.